è mandare in merda la vostra trasmissione, come cercate di fare con gli altri. Volete mandare in merda gli altri? Mandate in merda voi! Io sono più bravo di voi! Sì. Vi mangio vivi! Certo, certo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Stare in galera, noi abbiamo le galere piene dei poveri cristi che non hanno commesso quasi nulla, poveracci, i colletti bianchi stanno a casa al sicuro, comodo, che garantiscono a questo sistema la sopravvivenza, i domiciliari dovrebbero togliere in galera. Mentre Grillo e Casaleggio dicono che ci vogliono toni più moderati, caro Parenzo, ecco che spunta fuori il nostro amico Michele Giarrusso, senatore del 5 Stelle, il quale dice che bisognerebbe togliere addirittura i domiciliari e tutti quelli accusati per le vicende dell'Expo, per le vicende del Mose, per la, dovrebbero stare in galera. Evoca la ghigliottina, ovviamente non è che... non è che vuole la ghigliottina sul serio, anche se lui è, si vuole fare chiamare cittadino ed è un ammiratore della Rivoluzione Francese, un ammiratore di Robespierre. È un uomo violento. Ma è un uomo violento. Ma sono. Ad accendere, cara, scusi. Ma accendere che? Dove stai fumando? Fire? Sono il Gambrinus a Napoli a raccontarti, grazie. Ma non è un uomo violento, è uno che evoca la ghigliottina per dire che ci vuole il carcere duro. Comunque, ha evocato la ghigliottina e Robespierre. Giarrusso. Lei taglierebbe le mani a questi qua, Orsoni, Galan, se fossero... No, perché le mani? La testa, ho detto, la ghigliottina, mica tagliamo le mani, veramente... non erano barbari in Francia, erano evoluti, hanno scritto la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ma veramente no? Ci vorrebbe la ghigliottina per questi, dice lei? Certo, ma certamente. C'è ma la pena di morte? Pensa? No, la ghigliottina. La pena di morte è una cosa triste, da dire. La ghigliottina è più semplice, ma è più evocativa. Ci vorrebbe la ghigliottina, vabbè. Sa che fine ha fatto poi Robespierre, il periodo del terrore, comunque. Ma ci vuole, però ha mandato la Francia nell'età moderna. Si sono sbarazzati di una classe parassitaria che viveva sulle spalle del popolo affamando. Le ricorda qualche cosa? Il popolo moriva di fame e loro banchettavano. Le ricorda qualche cosa? Sono sistemi che si ripetono. Noi abbiamo ricreato una classe parassitaria. Là erano i nobili, qua si chiama casta. Che vive benissimo. Te la ricordi questa voce? Quella di Giorgio Bracardi. In come galera no? Ancora Giarrusso. Ma il taglio della testa non è possibile farlo. Il taglio della testa si fa con l'applicazione di norme serie e severe che li mandino in galera e non li facciano uscire. Invece qua sa che cosa chiedono un giorno sì e l'altro pure? L'amnistia e l'indulto. Ha capito cosa chiedono? No, ma lo chiedono i colpevoli, lo chiedono questi. Cosa resterà? Questi euro 80 te li danno e poi te li portan via. Cosa resterà? E il PD ti incanta. Canta Andrea Tosatto, ex candidato del Movimento 5 Stelle al Senato, alla Camera, non mi ricordo, alle passate elezioni politiche. Adesso sembra essersi distaccato, ma viene, come dire, inserito nel blog di Grillo, chiamate l'infermiera, con questa sua performance, con questa canzone su Renzi e gli 80 euro, una canzone fortemente antirenziana. Hanno spolpato una banca, non si dice più, Monte dei Paschi di Siena poi diventerà tabù. C'è chi ha fatto degli sbagli, questo io lo so, ora preso l'IVA ma voto nero no no no. Sentite come alcuni deputati, anzi deputate, chiamiamole così, del Partito Democratico distinguono tra il caso Orsoni e quello Galan. Caso Orsoni e Galan, certo sono diversi, per carità, bisogna distinguere. Però insomma in altri casi queste distinzioni non venivano fatte, diciamo la verità. Iniziamo dalla signora Moretti. La signora Moretti, anzi no, il caso più clamoroso mi sembra quello di Laura Puppato. Laura Puppato, senatrice del Partito Democratico, che dice il reato di Orsoni, 560.000 euro di finanziamento illecito, queste sono le accuse ovviamente, è meno grave della corruzione, dice la Puppato, che in altri casi questa distinzione non la faceva. No, sì, destra e non sinistra. È inquisito per corruzione, ma per finanziamento pubblico, che è un reato assolutamente meno rilevante da quel punto di vista, nel senso che lui sembra non abbia denunciato una quota di 100.000 euro, di 50.000 euro. No, per la verità si parla di 600.000 euro, 560.000. 560.000 sarebbero. Non avevo capito. 110 di finanziamenti illeciti per la campagna elettorale del 2010 e altri 450.000 consegnati in contanti. Ahia, allora la questione sembra più grave. Cioè la Puppato non sapeva nemmeno qual era l'ammontare per cui viene accusato Orsoni, capito? Beh sì, 50.000 euro. No, bastava veramente leggere almeno i giornali, diciamo, sono 500, esatto, sono 560, cara Puppato. Comunque vabbè, lasciamo perdere, va, lasciamo perdere che è meglio, va. Di questi euro tanta te li danno. La Moretti, la signora Moretti, cosa dice? Che bisogna fare una giusta distinzione tra Orsoni e Galan. Beh, certo, bisogna fare una giusta distinzione tra Orsoni e Galan, non c'è dubbio. È giusto quello che hanno fatto, cioè a distinguere le responsabilità. La responsabilità del sindaco Orsoni, che pare abbia ottenuto un finanziamento illecito, rispetto evidentemente alle responsabilità di un ex governatore che si chiama appunto Galan, il quale sembra invece essere, diciamo, protagonista di un vero sistema di corruzione e di appalti. Passa quella come un santo in tutte le TV. Hanno spolpato una banca, non si dice più. Monte dei Paschi di Siena poi diventerà tabù. C'è chi ha fatto degli sbagli. Oh, a proposito di 5 Stelle, senti che cosa dice il nostro amico Mandarà, nostro amico Mandarà. Sì, il nostro amico Mandarà, te lo voglio far sentire. Il nostro amico Mandarà che dice: Fico, il presidente della commissione vigilanza Rai, Fico, deve convocare, pensa te, deve convocare Maggioni, cioè là è Monica Maggioni, il direttore di Rai News 24, deve convocare Monica Maggioni per sapere che cosa è andata a fare al Bilderberg. Cioè, quella va per i cazzi suoi al Bilderberg, perché vuole capire, vuole sapere, eccetera, e uno dovrebbe essere convocato, dai su, Salvo! Ma questo è ma è Mandarà questo? Sì, sì. Beh, ma lo citi, è Mandarà, di che parliamo? Mandarà! C'è la legge Anselmi dell'82, che vieta le riunioni segrete, dove siano segreti i partecipanti o gli argomenti di cui si discute. Allora io chiedo una commissione parlamentare che chieda al senatore a vita Monti che cavolo è andato a fare in quella riunione, e chiedo a Roberto Fico, presidente della commissione di vigilanza Rai, di convocare immediatamente Monica Maggioni. Io vado a fare lo streaming se vuole, perché gli italiani devono sapere che cazzo è andata a fare Monica Maggioni in quella riunione. Rimborsi. Allora poi uno sente certe cose e si arrabbia. Non sto parlando di Salvo Mandarà, sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando delle authority. Adesso bisogna dare tutti i poteri per la corruzione, bisogna dare tutti i poteri al signor Cantone, no? Che non serve assolutamente a nulla, perché i controlli già volendo esistono. Non serve assolutamente a niente. Soprattutto si scopre che esiste già dal 2006 un'altra autorità, caro Parenzo. Si chiama Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, che ha una sigla AVCP. AVCP. Ci lavorano 300 persone, molto più dell'autorità anticorruzione, 300 persone. Ci sono 7 dirigenti, ognuno dei quali becca quasi 200.000 euro l'anno, abbiamo qui tutti gli emolumenti. Un presidente che ha altri 4 incarichi e prende 59.000 euro circa, si chiama Sergio Santoro. Ditemi voi, avete mai sentito parlare di questa autorità? Ha mai controllato qualcosa? Ha mai vigilato su qualcosa? Ha mai prodotto qualcosa? Soprattutto, è mai intervenuta su questi appalti? Rispondimi tu, Parenzo, rispondimi tu. Zero, meno di zero. La cosa più divertente è che questa authority, di cui io ignoravo completamente l'esistenza, ha sede in un palazzo meraviglioso a via di Ripetta, nel cuore di Roma. Ma c'è da chiedersi, ma cosa ha fatto fino ad oggi rispetto a Expo, rispetto alla vicenda di Venezia? La cosa più bella è che il signor Santoro, che è il presidente di questa authority, ieri ha incontrato Cantone e dice: sì, l'ho incontrato perché dobbiamo attivare una collaborazione. Sì, cancellare le autorità. Vanno abolite le autorità, la maggior parte delle autorità vanno abolite. Ma diciamo un'altra cosa a proposito della vicenda appalti. Aspetta, a proposito della vicenda appalti, diciamo un'altra cosa, non me ne frega niente dei napoletani in questo momento, no? Di napoletani come anche se ma non per i napoletani, Allora, no, dei napoletani che ha intorno, vogliamo dire un'altra cosa del signor Lotti, stretto collaboratore di Renzi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, quello che si occupa dell'editoria, Lotti, Partito Democratico, che scarica Orsoni dicendo che non è del Partito Democratico, che non ha nemmeno la tessera ed è un esterno, ti giuro, ha detto così. Allora, ti posso assicurare che uno dei più stretti collaboratori di Renzi ha detto che Orsoni non è del Partito Democratico, il sindaco di Venezia, targato PD... No, forse non è iscritto, forse è una tecnica, nel senso che forse non è iscritto. Ma no, ma perché si è candidato da esterno, d'accordo, da ma che c'entra? Se forse non ha la tessera del PD, ecco. Ma magari l'avrà presa, dice d'accordo. Di no, ma che conta? È stato candidato dal PD, è un sindaco del PD, non diciamo cazzate. È un sindaco del Partito Democratico. Ma su questo non c'è dubbio. Non è dei nostri, non fa parte del PD, non ha la tessera. È un esterno, è stato candidato da indipendente, ma di cosa stiamo parlando? Traffico, torniamo subito. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Sono tempi duri, non tanto per noi, non ce ne frega niente, nulla, zero. Gratta, ma peggio è. Poi uno dovrebbe andare a vedere dentro chi sono questi signori che si fanno dare 200.000 euro l'anno per far parte, giù il cappello naturalmente, cioè sono i numeri uno da questo punto di vista. Senza il casco però, ma perché non ha il casco, scusi? C'è uno che è motorino senza il casco. Fermalo subito, denunzialo. Denunzialo subito. Fratello, ma scusa, ha dimenticato il casco, m'ha fatto il dito. No, ha fatto il dito, amico ma mio. Dai, ma su, ti assicuro. Allora, il dito. Tu sai che tra. Ciao, fratello, vieni qui. A lei ce l'ha il casco, però. Che ci tieni? Ma tu ce l'hai il casco, però. Non vedi che c'è il casco. Però quel signore che c'era prima non aveva il casco. Sei un grande paraculo. Siamo in diretta alla radio, però. Sei un grande paraculo. Però Cruciani. Tu è lui. Ma tu devi allacciarti il casco, fratello, però. Allacciati la legalità. Digli di allacciarsi bene il casco. Ehi, questo ragazzo, il casco, ragazze! Ma sono senza casco. Ma quanta gente senza casco? Ciao, fratello, ciao. Ma quanta gente c'è senza casco a Napoli? Ma una cosa pazzesca, ma scusami. Ma è uno stereotipo, dai, non è vero, stai scherzando. Dai. Tu lo sai che tra i consiglieri di questo ente... dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a 190... No, non voglio neanche sentire il nome, non voglio più sentire a 196.000 euro l'anno. C'è anche Alfredo Meocci, adesso è un nome sconosciuto ai più. Signor Meocci, come no, signor Meocci. Beh, amici miei, ne parleremo più avanti. Intanto ci ha raggiunto Marina Ripa di Meana, buonasera. Buonasera carissimo, come state? Bene, ma dove eri? Sempre a farti fare il massaggino? No caro, ero in casa, voi non veramente facevo il giardinaggio. Giardinaggio. Ah, c'ha una casa stupenda, guarda Marina, sono stato a casa sua. Quanti metri quadri? Non so, mi pare 300, 200, non so. Beh, grande. Beh, molto grande, molto grande. Grande. Di proprietà, immagino, no? No, non è no. Di proprietà, è in affitto. Quanto paghi, scusa Marina? Scusa. Ma senti, che vogliamo fare? Entrare pure nel... Non lo so, lo paga mio marito. No. Sai che ti voglio fare sempre quel massaggino famoso, vabbè, però quello lo faremo. Massaggino, sono pronta a farmelo fare, ma non mi fate domande volgari. No, volgari, non è mai stati volgari. Ma entrare in queste cose, quanto paghi d'affitto? Io sono qui per parlare di cose serie. Che sono volgari, scusa. Ma tu che faresti a quelli che hai corrotti? Taglieresti le mani ai corrotti? Guarda, io ho avuto la soddisfazione della vita, sì. Perché c'è un vecchio conto, con questi che si sono venduti Venezia, il luogo più bello del mondo, che vergogna. E qual è il conto con la vita? Qual è allora il vecchio conto che ho con quelle persone, che noi le abbiamo denunciate già anni fa. Ma quali? Fa. Quali persone? Tutto quello che è fatto, in tutti quelli comitato di affari che... Chi ha denunciati? Voi chi? Carlo, mio marito, abbiamo fatto delle battaglie, Carlo ed io, contro il Mose. Contro il Mose, già da anni fa. Già grandi battaglie, grandi battaglie. Battaglie sì. Che Carlo si conquistò. Carlo si conquistò la nomina di presidente d'Italia Nostra Nazionale, sì. E loro ci querelarono, sì. Ci chiesero una cifra, perché noi avevamo detto che erano un comitato d'affari e una cosa inutile, sì. E ci chiesero 3 milioni di euro. E che avete fatto alla fine? No, io mi terrorizzai, fa uno dei momenti di crisi del grosso del matrimonio, sì. Mi terrorizzai, andrai dai miei avvocati per fare la separazione. Separazione dei beni, addirittura. Per cui che faresti a questi corrotti? Sempre se le cose. Aspetta, mi fai finire. Dopodiché sì. La cosa è rientrata, loro si sono resi conto che avevamo detto delle cose sgradevoli, ma non c'erano i termini per fare una cosa. E ci hanno pagato pure il conto degli avvocati e l'hanno ritirata. Certo, ecco. Le spese. Dunque... Però per dire tutto questo è stato detto in una battaglia fatta anni da noi. Fa, con... Anni fa, certo. Anni fa. Senti, anni ma fa. Che faresti tu ai corrotti in generale? Corrotti, un bel taglio delle mani, che dici? No. Beh, guarda, non se ne può più, io credo che darei delle pene un po' più pesanti. Perché qui non è che possono andare, metterli dentro ai domiciliari, dopo 3 giorni uscire, tanto loro si siedono su un gruzzolo di denaro e questo sindaco di Venezia ce la mettono in quel posto, dici tu. Ce la mettono a quel posto, noi che siamo che paghiamo per loro, ma ti rendi conto Galan, quello che sta rubato, è vero quello che dicono, ma credo che le premesse sono molto pesanti. È vero quello che dicono, insomma, c'è da dare, insomma, finalmente delle pene un po' pesanti, ragazzi. Cioè, innanzitutto non Galan, tu dici subito in carcere, innanzitutto Galan. Tu che ne pensi? Dove le andiamo? È deputato, deve passare al caffè, al bar. Ma, no, ma magari anche spaccare le pietre ogni tanto, tu dici lavori forzati, cose di questo tipo. Io gli darei delle pene molto pesanti adesso. Molto pesanti, anche corporali magari, corporali. Forse. Ma ho scoperto, adesso non caro. Arrivo a darle pesene corporali, ma insomma stare un po' in gattabuia per un bel po' di tempo. Ma tu eri socialista, eri garantista una volta. Adesso il carcere. Garantista, no, niente. Io sono stata socialista fino a un certo punto, poi purtroppo Carlo per primo, mio marito, quando ci sono state tutte le avvisaglie di Di Pietro, tu sai che quando si sono mangiati tutto, dice, quando si è scoperto che si mangiavano a casa di Marina, casa di Marina ho visto una foto pazzesca del matrimonio con il signor Carlo Ripa, sì. Testimone di nozze, il signor Carlo Ripa era un certo Bettino Craxi. Testimone di nozze di Marina Ripa era Alberto Moravia. Cioè, Alberto Moravia e Goffredo Parise. Scusa, Parise. Marina, ma allora Craxi che cos'era secondo te? Un ladro oppure un perseguitato? Scusami. Io penso che ci rifossero persone come Craxi. Ho capito però. Qualche soldo se l'ha inguattato pure lui, Qualche soldo se l'ha inguattato anche lui, No, non per se stesso, l'ha inguattato semmai. La differenza, vedi qual anche è? Per loro, se stesso, insomma, anche fammi per dire, se stesso. No, la differenza è che loro rubavano per il partito e questi rubano per loro stessi, per cui la cosa è una bella differenza. Marina, che Orsoni è accusato della stessa cosa di cui furono accusati molti dirigenti del PSI, cioè di finanziamento. Però voglio chiedere una cosa, ho scoperto, Marina, una cosa, che tu, laica e tu te, sei contraria al divorzio breve. Bravo. Certo. Ma come fai a essere contraria? come sei contraria al divorzio breve? Ma uno deve avere la libertà a un certo punto, senza pastoie burocratiche, senza intralci di separarsi. No, non sono d'accordo. Uno non si sposa per niente, perché si deve sposare sapendo che dopo 6 mesi si può divorziare? Non ti sposi, tanta gente oggi non si sposa più, non si è sposata, mia figlia non si è mai sposata, le mie nipoti non si sposano, non c'è bisogno di sposarsi, ma perché sposarsi e sapere sposarsi sapendo che dopo 6 mesi uno si può mandare tutto all'aria? Ma che c'entra? Succede che uno si sposa e poi si sbaglia. Se si sbaglia, ma si divide. Appunto, si divide, ma uno. Divisione è un conto, il divorzio è un altro. Se tu già ti sposi, già il matrimonio ha davanti questa paletto che tu ti sposi e ti puoi divorziare. Dopo 6 mesi tutte qui si sposeranno così, tanto facciamo una bella festa. Dunque un inno al matrimonio, facciamo, ci saranno più matrimoni. Come facciamoci la magnata? Festa, mettiamoci dei bei vestitini. Scusa, il matrimonio. Ma è veramente una cosa assurda. Sei d'accordo con la Chiesa? È incredibile. Io non sono d'accordo con la Chiesa, io sono una persona laica, ma appunto. Il matrimonio. Ma che c'entra? Io sono una persona laica, però sono anche dell'idea che nei rapporti, così come tra gli uomini, tra gli amici ci sono delle crisi, ci può essere una crisi. Può essere una crisi, mica è uno obbligato. E se la crisi uno piglia e divorzia, ma il matrimonio non è un matrimonio, non c'è bisogno di farlo. Va bene, riprendiamo con Marina Ripa di Meana fra 10 minuti, 12 minuti circa. Giornale radio. Oggi il Papa ha detto una cosa incredibile, Parenzo. Guarda, io attaccherò ancora una volta il Papa. Scusami tanto, ma attaccherò di nuovo il Papa. Senti, ho visto i romani disprezzare gli zingari. Quando prendevo l'autobus a Roma e salivano nomadi, l'autista spesso diceva ai passeggeri: guardate il portafogli, questo è disprezzo. Ma quale disprezzo? Quelli rubavano i soldi. Ha fatto bene, faceva bene l'autista, fa ancora bene a dire state attenti al portafogli. Perché quelli, quando salgono sull'autobus, non è che è per viaggiare, è per rubare, caro Papa. Lei, signor Sputacazzi? Quanti cazzi volano in questa trasmissione? La Zanzara. Buonasera, signor conduttore, immagino. Saluti da Roma e quindi saluti romani. Insomma, dipende, caro Mario. Saluti romani non necessariamente, no, anche se uno è collegato da Roma, non necessariamente. Caro amico mio, certo che... Dunque, vuoi notizia o no? Vuoi una notizia? Sì, dimmi, dammi una notizia. Poco fa, perché domani lo incontreremo, De Magistris sarà alla Zanzara, poco fa ho parlato con il signor De Magistris, sindaco di Napoli, quale mi ha detto che ha risposto la signora Picerno. Picerno. Allora ricapitoliamo, perché la gente non sa un cazzo di queste cose. La signora Picerno che cosa ha detto? Neo-europarlamentare del Partito Democratico, eletta con un sacco di voti, oltre 200.000, anche se seconda nella sua circoscrizione, di fronte, come dire, intenzione non manifestata esplicitamente ma quasi da parte del sindaco di Napoli De Magistris, insomma, di tornare nell'alveo, anzi di andare verso il Partito Democratico, un'intervista in cui ha esaltato Renzi eccetera eccetera, ha risposto picche, ha detto è come un bambino, come un ragazzo che si autoinvitava alle feste delle medie. Come ha risposto il signor De Magistris? Ha detto non lo decide la Picerno, come dire, la Picerno non conta niente, non lo decide la signora Picerno. Beh, da questo punto di vista però ha ragione De Magistris. Se mai lo decide Renzi. Devo dire la verità che su questo ha ragione, però. Su questo ha ragione. Dopodiché la signora Vigeno è una deputata. Non è che si può permettere di dire quello sì, quello no, non entra nel PD. Dai, ai napoletani brucia ancora moltissimo il fatto che il signor De Magistris 3 anni addietro fece questa corsa solitaria alla guida del Comune. Vabbè, maestro, questo non è un problema nostro. Francamente, non è un problema nostro. Vuoi sentire il signor Sergio? Io sono fissato con questa cosa oggi. Perché a me le authority mi fanno impazzire. Le authority spesso non hanno i poteri necessari, per carità, spesso vengono create come alibi. Quando succede uno scandalo, si creano le authority. Così i politici sono tranquilli, non hanno l'alibi. Abbiamo fatto l'authority sulla corruzione, abbiamo fatto l'authority di qui, l'authority di là, eccetera. Questo signore che si chiama Sergio Santoro, ed è un burocrate, ed è un alto magistrato, credo, è un presidente di Consiglio di Stato, insomma un classico boiardo, ma lo dico senza offesa, boiardo di Stato. Signor Sergio Santoro è a capo di questa autorità che dovrebbe controllare gli appalti pubblici. è una roba incredibile. Ci sono 300 persone impiegate, 7 dirigenti, gente che prende 200.000 euro l'anno. Non fanno nulla, amico mio. Producono documenti. Si accorgono dopo degli scandali. Non succede niente. Fanno relazioni. E noi paghiamo gente per produrre carta. Relazioni. Senti questo Santoro a proposito del di come è fatto questo ente che paghiamo noi. E io pago. Noi siamo circa 330 funzionari, tra funzionari e dirigenti. Abbiamo una quarantina di dirigenti di seconda fascia, 6 dirigenti di prima fascia, una quarantina circa di seconda fascia e poi la restante parte sono tutti funzionari dell'autorità. Quindi sono in totale circa 330-340 persone. Il costo glielo posso chiedere di... Quanto costa la... Quanto costa? Dunque, il bilancio dell'autorità è circa 50 milioni di euro. Il costo del personale dovrebbe essere sui 20 milioni. Ma tu ti rendi conto, amico mio? 20 milioni di personale! Questa autorità ci costa 50 milioni di euro per non fare una mazza! E basta, su! Ma questi sono gli sprechi da tagliare, questa è la roba da tagliare! Renzi, sbrigati! Parenzo, non dici niente, perché non dici niente? Perché voglio dire, appena ho letto stamattina questa notizia, subito ti ho telefonato allibito per dirti questo. Infatti ci siamo, ma che ti devo dire? Ma infatti secondo me Renzi manco sapeva dell'esistenza. Scusi, professor Cacciari, professor Cacciari, ma ha sentito questa cosa? Ha sentito questo scandalo, no? Professore? Professore? È una cosa vergognosa, ma a Venezia c'è il Mose, a Venezia. Lei sa che cos'è il Mose? Beh, sì, certo che so che cos'è il Mose. Io sono stato l'unico a combattere contro il Mose, l'unico. Beh, adesso l'unico, non esageriamo. Lei non ha scritto una riga contro il Mose, mai. Io sono 34 anni che dico che il Mose non deve esistere, 34, anche se il Mose è degli anni 80. Beh, appunto, ma io sono comunque 30, ma anche da prima che lo facessero, ho sempre detto no al Mose, no a Mosè, no al Mose, no a Noè, no a tutte queste robe qua, l'ho sempre detto, sempre. Vabbè, d'accordo. TG3, titoli. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Renzi, piena fiducia nella magistratura, le regole ci sono, il problema sono i ladri, i politici che rubano, li processerei per atto tradimento. Le tangenti per i lavori di realizzazione del Mose elargite come stipendi, dall'inchiesta il sistema di distribuzione dei fondi neri, Cantone, peggio dell'Expo. Costo del denaro mai così basso in Europa, tassi negativi sui depositi bancari, svolta BCE contro la deflazione, Draghi, gli interventi non finiscono qui. Chiusura positiva per le borse, spread in calo, i mercati apprezzano la svolta di Draghi, impegno del G7 per la crescita, si cercano nomi nuovi per la guida dell'Europa. 5 Stelle, vertice sulle alleanze in Europa, referendum entro fine giugno, Grillo e Casaleggio ammettono indispensabile migliorare la comunicazione. Dopo tante bocciature, il Consiglio d'Europa valuta positivamente i miglioramenti della situazione di sovraffollamento nelle carceri italiane. 70 anni fa lo sbarco alleato in Normandia, punto di svolta della guerra contro il nazismo, domani in Francia le celebrazioni ufficiali. Marina? Sì. Allora? Ecco. Allora? No, volevo dire, era quello che imita tanto bene Cacciari, volevo dire, aggiungere che non era solo Cacciari, c'era anche Carlo Riparimeale. Vabbè, Marina. Adesso però basta, abbiamo già detto, amica mia. Vabbè, allora che cosa vuoi sapere? Breve l'hai detto, no? Il divorzio breve. Allora, sta cosa degli zingari del Papa è incredibile, però il Papa ha detto l'altro giorno che la gente non dovrebbe prendere i gatti, non dovrebbe prendere i cani, ma dovrebbe fare i figli e non dovrebbe, come dire, no, perdere tempo a fare queste cose. Io trovo che qui il Papa, scusate il termine, è un po' pecoreggio. Ha pisciato fuori del pitale dal vaso, ha pisciato fuori dal vaso, diciamo, dal vaso, dal vaso, sì, secondo me sì. Capito, poteva risparmiarsela questa cosa. Questo perché tu sei ormai anti-Rom, anti-immigrati, ma voglio dire, ma come anti-Rom, cosa, che c'entrano i Rom, scusi, no, questo no, caso. Non c'entra questo, c'entra il fatto che non si non si può paragonare gli animali ai figli, sono due cose separate, anche se noi, a me interessa un'altra cosa. E allora la Chiesa non si opponesse alle norme sulla, sulla fecondazione assistita. Se, fa, se bisogna fare i figli, non si opponesse alle norme sulla fecondazione assistita. E poi scusate, c'è anche un'altra cosa da dire: in tempi come questi, in cui due disoccupati, ce ne sono uno su due ragazzi, sono disoccupati, è chiaro che i giovani non fanno figli, perlomeno quello. In questo senso, gli italiani dimostrano anche un po'. Non parla un po' troppo sto Papa? Io direi che, appunto, come ho detto, ho usato un termine anche un po' pecoreccio, però secondo me è un po' strafà, è diventato quasi un prestigiatore, ogni giorno ne dice una, ogni giorno ne spara una. Ma ha ragione Marina Di Patimiani, io devo dire la verità, in questo caso l'ho già detto che sembra tipo un clown, ogni giorno parla esterna su qualsiasi cosa. Parla, dice esterna, ne dice di ogni, non esageriamo, insomma un Papa deve essere un Papa e occuparsi semmai ci sono problemi brava, molto gravi. Brava, brava. Adesso, ha ragione lei. E lo dice uno che non è di quella gruppo. Sì. Ma lo dice uno che non è di quella confessione lì, ma voglio dire, è pur sempre il Santo Padre. Comunque non è questa la questione, ti volevo chiedere questo, Marina, perché riflettevo l'altro giorno. Dunque, tu sei stata sposata col signor Lante della Rovere, sì, poi allora... dopo ti sei divorziata e poi ti sei sposata col signor Carlo Ripa di Meana, ma un cazzo di metalmeccanico della Fion, perché non te lo sei mai sposato? Beh, perché non mi è mai capitato, e poi perché sono una persona che ha buon gusto e vado dietro le persone belle. Avevo trovato il primo mio marito che era vabbè, un uomo, che c'è un metal meccanico della Fiume, non può essere bello, no? Beh, non l'ho trovato bello, i più belli di quei due che ho sposato effettivamente non c'erano. Il primo aveva un piccolo difetto, che era molto menace, come si dice a Roma, cioè? Però era bellissimo. Che c'aveva? Menace, che vuol dire? Picchiava per ogni pezzo spinto. Ma veramente, per ti picchiava? Sei stata picchiata? Appunto, per cui ancora scappo. Ma t'hanno menato veramente sul serio? Ti menava? Eh beh, però l'ho anche ridate, ti posso dire. Mamma che l'ho anche... Mamma mia, e l'altro, il secondo che problemi aveva? Il secondo non c'ha problemi, tant'è che ci sto da 35 anni, ma è stato, insomma, sono sempre stata attratta dagli uomini belli. Vabbè, ma in 35 anni qualche scappatella l'avrei pure fatta, no? Cioè, in qualche... Ma in 30... cioè, avete sempre questo chiodo fisso di sapere da me per se me, ho fatto... Per me la monogamia è innaturale, diciamola subito. Cara ma Marina Ilverimana, per me la monogamia essere, è innaturale. C'è una monogamia del cervello che, guarda, è qualcosa... Una monogamia del cervello è buona, quella monogamia del cervello è una buona cosa, è una buona... È imprescindibile, io penso che quella la vera fedeltà, quando tu ti affidi a una persona... Ho capito, però vai a spiegare, se te fai qualcuno dice, però io sono monogamo con te nel cervello, però te sei fatta un'altra, amica mia... Beh, è importante non essere volgari, non essere non inveire nella vita degli altri questo in modo pesante, questa è la cosa, ma se le cose tu non... Non so, io non voglio sapere certe cose di mio marito, certe cose mie che sono state nella vita, questo è l'importante, non offendere, non essere volgare ed avere una vita libera, perché quello di essere appiccicati qui e qua è anche insopportabile. È vero, allora il Papa, però, ultima cosa poi ti lascio, quando prendo il bus a Roma, quando prendevo l'autobus a Roma e salivano degli zingari, l'autista spesso diceva ai passeggeri, guardate i portafogli, questo è disprezzo, forse è vero, ma è disprezzo. Beh, amico mio Papa, caro Francesco. Beh, io non sono d'accordo anche stavolta, ti voglio dire che io faccio molta attenzione ai portafogli. Ieri mi si avvita scendendo alla, sì, portafoglio gonfio. Scendendo alla stazione mi si è avvicinata una e sono scappata, perché so che effettivamente fanno zingara, i portafogli, certo, ci arrivano. Io gli zingari non li posso soffrire, per cui ma non li puoi vedere proprio. Non ho simpatia, quasi sempre sono sempre stati, penso che anche il furto che ci ho avuto pesante in casa sia dovuto a uno zingaro. Vabbè, per questo cui, insomma, non lo sai, però lo posso sapere per sicuro, ma insomma non è che però vado se proprio ti in giro per gli zingari. Se ti si avvicina uno zingaro la maggior parte delle volte... Sto in campana, sto molto in campana, comunque. Comunque i campi rom non li puoi vedere, i campi rom. No, adesso non esageriamo, non siamo così. Però insomma farei attenzione, ecco. Non sono... Ma fanno bene gli autisti degli autobus a dire una cosa del genere, ad avvertire la gente, no? Fanno benissimo. Ciao, a presto, ti abbraccio. Ciao. Ciao carissima, ciao. E mi raccomando, pregate. La Zanzara. Francia allerta sulla ghigliottina. Tronca il capo a chi punirla vuol. Via! Faccio io, avanti, facci! Avanti che suo mestiere, vai! Va via, dai via! Faccio io! Avanti! Che cacchio fate! Via, merdaggia d'aristocratico! Faccio io, lasciami a me fare! Queste ghigliottine, ma come cazzo le fate? Queste ghigliottine che non funzionano mai, cavolo! Maledette queste ghigliottine! E a chi non soccombe si schiudano le tombe. Fantozzi, finì ghigliottinato. Finì ghigliottinato. La ghigliottina è stata evocata dal pentastellato giarrusso qui alla Zanzara. Ovviamente non voleva dire ghigliottina, però certo in questo periodo cricca sociale ci vorrebbe la ghigliottina, vabbè. Sa che fine ha fatto poi Robespierre, il periodo del terrore, comunque. Ma ci vuole, però ha mandato la Francia nell'età moderna, si sono sbarazzati di una classe parassitaria che viveva sulle spalle del popolo affamandolo, le ricorda qualche cosa? Il popolo moriva di fame e loro banchettavano, le ricorda qualche cosa? Sono sistemi che si ripetono. Noi abbiamo ricreato una classe parassitaria, là erano i nobili, qua si chiama Cassa, che vive benissimo. Lei taglierebbe le mani a questi qua, Orsoni, Galan, se fossero... No, perché le mani? La testa, ho detto, la ghigliottina, mica tagliamo le mani, veramente... non erano barbari in Francia, erano evoluti, hanno scritto la dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ma veramente no? Ci vorrebbe la ghigliottina per questi, dice lei? E certo, ma certamente. C'è ma la pena di morte? Testa? No, la ghigliottina. La pena di morte è una cosa triste, da dire. La ghigliottina è più semma, è più evocativa. Del signor teppista, l'individualista sa colpire ancora. Enrico da Roma. Enrico, dimmi, dai. Enrico, non sento, dimmi. Senti, adesso? Dai, forza. Io ti volevo solo far notare che quando chiamiamo, rimaniamo un'ora e mezza attesa, effettivamente ci dobbiamo fermare nel traffico, bloccate il PIL nazionale, caspita. Lo so, che dobbiamo fare? No, detto questo, devo dire, due sere fa, per l'ennesima volta, non sono riuscito a parlarti, dopo che continuavi a difendere l'idea dei tassisti, che dal momento che avevano pagato una licenza, che caspita, poi arriva... Non ho detto questo, papale, la tua giustificazione... Vabbè, l'ho detto, Diamo per scontato che l'hai detto, tutto quello che ti... Io faccio l'imprenditore, ci ho messo di tutto nella mia vita dentro la mia azienda, sì. E non c'ho nessuno che mi viene a raccontare che siccome ho speso dei soldi qualcun altro mi deve difendere. Avete rotto i coglioni, cazzo, con sta storia. I tassisti si devono ammodernare. Quando vorranno ammodernarsi in qualunque modo, facciano sì. L'Uber della situazione, che cazzo gli costa, incomincino anche loro a considerare che il mondo cambia. Abbiamo un problema serio che qualcuno rimane senza lavoro perché le aziende chiudono? Benissimo, i tassisti chiudono. Avete rotto il cazzo che tutte le volte che si parla di tassisti abbiamo il problema che con uno sciopero riescono a bloccare le città. Allora, caro Enrico, ti dico una cosa. Io in linea di massima sono a favore di tutte le applicazioni del mondo. Anzi, sono non in linea di massima, sono a favore di Uber, di tutti quelli che vogliono fare un'applicazione. Vogliono creare nuovi posti di lavoro, vogliono creare nuove opportunità e tutto. Però bisogna risolvere una questione. Siccome i comuni... Sto parlando siamo di più noi imprenditori che dovete risolvere la questione, Enrico, di siccome i comuni hanno creato un sistema assurdo, per cui è un sistema non ha creato un sistema assurdo delle aziende che vanno a puttane perché non abbiamo lavoro. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che c'entra, scusa, Enrico, cosa c'entra? È facile parlare perché tu non hai dovuto spendere soldi per star seduto lì, al contrario, scusa, ti sto dicendo, prova a mettere dei soldi sulla Radio 24 tua e poi vederti qualche situazione per cui la Radio 24 tua deve chiudere perché non ho capito. Cosa c'entra, scusa, questo? Certo che faccio pippa. Certo che faccio pippa. Ho capito, però no, Enrico, il punto è che ci sono delle regole, il trasporto pubblico è soggetto ad alcune regole. Ma tu puoi fare sempre il doppio pesismo, che ma non c'è doppio pesismo. Non ti piace essere accusato, ma di fatto la fai. Mi devi spiegare quale caspita è la differenza fra uno che spende 100.000 euro per una licenza e io che ne ho spesi 200.000 per avere i dipendenti, le macchine, la licenza per l'apertura, il tetto, il capannone, l'affitto. Nessuna, solo che quel lavoro io non sto difendendo i tassisti. Sto dicendo semplicemente che bisogna risolvere. Io sono a favore dell'esistenza di Uber. Uber non deve essere chiusa. E questo è chiaro. No, ma siamo d'accordo. Scusami, io lavoro nel settore delle tipografie. È come se tu dicessi: porca puttana, ma non è la stessa cosa. Le tipografie sono libere. Sono arrivate le stampanti 3D no. E tutti quelli che ne lavorano nel settore delle tipografie. Le stampanti sono libere. Il trasporto pubblico non è che uno arriva e si mette a fare il trasporto pubblico. Uber è libero. E questa è la tua concetto. Il trasporto ieri pubblico è soggetto mentito. A delle regole. Il ma trasporto sì, ma anche la mia azienda è soggetta alle regole. Non posso. Ho capito, stampare. Ma è diverso. Fuori, non è io diverso. Stampo, ma insomma, no, non è diverso. Come no? È diverso. La virgola per fare il doppio pesista. Non è quello che mi fa impazzire. Scusami un attimo. Non è che se qualcuno arriva domani, se tu domani vai per strada e vuoi portare una persona per strada, non lo puoi fare. capito? Non lo puoi fare, invece puoi aprire, invece puoi aprire una tipografia. Di tipografia, ci rimetti i soldi e riapri la tipografia, oppure non apri, anzi ti dirò, proprio per sposare questo tipo di concetto, ti compri una stampantina al negozietto con 50 euro e cominci a stampare nei confronti di un altro. Ti rendi conto, Enrico, che il mondo è differente? Enrico, non c'è dubbio, il mondo è differente. Ho detto più volte che i tassisti devono rendersi conto che il mondo è cambiato e che alla lunga non utilizzare, ma glielo ridico, che e che alla lunga non utilizzare i mezzi pubblici e non utilizzare la macchina farà solo del bene anche a loro, perché se uno non prende la propria macchina, utilizza Uber, i taxi eccetera, alla fine i taxi avranno tutto da guadagnare. Grazie. Claudio, provincia di Avellino, vai. Buonasera. Dimmi. Io devo rimanere calmo perché ho i coglioni a posto delle tonsille. Cioè? Spiego, perché tu, Cruciani, sei partito con quelli delle, di quello che vuole tagliare la testa dei 5 Stelle, no? Giusto? Sì. L'hai fatto sentire poco fa. Sì. Perché non metti di nuovo la risposta italiana a Mr. Bean, che ha detto che si deve applicare il codice militare di guerra? No, non ha detto quello, ha detto che andrebbero accusati di alto tradimento, ma non voleva dire che fermati mo. No, infatti è sbagliato anche quello, hai ragione, è sbagliato anche. Non devi rompere i coglioni tu. No, ma stai tranquillo, Luigi, devi stare tranquillo. No, io sono tranquillissimo. No, non sei tranquillo, non sei tranquillo. Quando si applica il protocollo di tradimento alla patria? No, ma non diceva alto tradimento nel senso classico del termine. No, perché adesso quelli là vi fanno comodo. Ma chi ci fa comodo? Io guardo. Ma guarda che tu mi puoi accusare di tutto, tranne il fatto di essere a favore di Renzi, amico mio, tranne di essere a favore di Renzi, per cui non rompere le scatole. A quello lo state mettendo in croce, perché ha detto la grigliottina. Alla risposta italiana. Ma chi lo sta mettendo in croce? Ma chi? Rimandate Renzi che dice che bisogna applicare la. Rimandate Renzi. No, ma lo mando tranquillamente. Quando dice che devono essere accusati, chi prende le mazzette deve essere accusato di alto tradimento. Sì, ma non diceva, spero di no. Spero che non dica. Quando si accusa qualcuno di alto tradimento? Sì, sì. Ho capito, ma non voleva dire nel senso come dire letterale del termine riferito al codice militare. Radical chic, quello caca margherita, è vero? Ma che c'entra? Parenzo, rispondi tu per favore. Rispondi tu. No, poi c'è una cosa da dire a Parenzo. Visto che a Napoli, perché non va Giuliano in provincia di Napoli, va prima di arrivare a Giuliano e va a dire a quelli che stanno nei campi lì, no, che fanno qualche mestieruccio, va a parlare di pata negra, se lo tagliano a coltello fino e a coltello largo. Ma che c'entra, scusa? No, io pensavo che Parenzo stasera si era andata ad incatenare alla Biennale di Venezia, dove c'è stata la presentazione della più grande mostra di architettura al mondo, dove sono venuti tutti i media mondiali, io faccio l'architetto, e non c'era nessuno a rappresentare il comune di Venezia. Eh beh, certo, come perché mai quello sta in galera. Parenzo non si è andato a incatenare lì e a dire che era una vergogna per l'Italia, così con tutti questi radical chic di sinistra che cacano margherite profumate a dire questa cosa. Oh mio Dio, l'Italia è la vergogna, non mi sento italiano, bisogna cacciare via questa classe dirigente che ruba, che fa. Perché non è andato a Venezia, Parenzo? Parenzo? Perché io non mi incateno da nessuna parte, ed è chiaro che è una vergogna per quella città avere il sindaco in galera. Ma chi mai l'ha difeso Orsoni? Ma mai sentito, da quando è saltata fuori la notizia, io ho mai difeso per una volta Orsoni? Ho semplicemente ricordato che il reato che gli contestano è diverso da quello di Galan. Ah, certo, tu hai fatto questa differenziazione, anche tu hai distinto. Ma questo lo faccio per chiunque. Ma voglio dire, il finanziamento illecito è un reato, secondo l'accusa, stipendiato da alcuni come dire faccendieri, da alcuni è altra cosa secondo le accuse, però sono due reati diversi, ma non è che è meno grave, sono due reati diversi. Claudio, che vuoi aggiungere? Niente, che manda l'ambulanza a Parenzo, perché sta sfarfallando. Perché sta sfarfallando? Spiegami, cosa ha detto di strano? Perché vedi, stasera non ci parla delle terrazze a Roma, fallo mandare a Giuliano. Ma perché dovrebbe andare a Giuliano? Ma perché dovrebbe andare a Giuliano? 20 euro per 10 ore di lavoro sul cantiere. Vai a dire, ma voi, in quanto membri del Partito Democratico, cosa pensate di questo fatto che se si debba difendere il sindaco di Venezia da sindaco per poi porre le sue questioni, piuttosto che vagliela a dire a loro se loro tagliano il pata negra? Vallo fare a Scampia il comunista a Parenzo. Fabio da Roma, grazie Claudio, Fabio da Roma. buonasera, glielo dico io all'ascoltatore precedente perché non è a Venezia, perché Parenzo è un pagliaccio travestito da uomo che ieri con Giarrusso ha cominciato a parlare della ghigliottina, gli avete fatto 30 domande per fargli dire questa ghigliottina. No, veramente l'ha detta lui direttamente, non io l'ho detta io. Sì, però mentre tu, Cruciani, gli chiedi della ghigliottina per questo meccanismo che è già certificato dell'invettiva radiofonica, perché dovete tirare fuori che la ghigliottina, quando lui ha anche spiegato in realtà poi che non... Vabbè, ma qual è il problema? Non ho capito, Fabio, che problemi hai? Il problema, no, non ho nessun problema, il problema è che, visto che adesso Parenzo trova sempre la parolina per difendere questo branco di delinquenti, trova la parolina, poi però quando c'è quello del Movimento 5 Stelle... Sì, sì, Parenzo, tu c'hai sempre la parolina per difendere questi qua, poi quando chiama quello del Movimento 5 Stelle c'hai sempre pronto qualcosa da ridire. Vabbè, no, ma certo, ma se uno dice, se secondo lui uno dice stupidaggini, quello risponde, ma che cosa vuoi fare? Stupidaggini, voi dovete anche voi prendere delle posizioni, siccome Parenzo in queste condizioni qua... Ma potrò essere contrario alla ghigliottina o no? Potrò essere contrario alla ghigliottina o no? Abbi pazienza, ma lo sappiamo benissimo che non si riferiva alla ghigliottina, lo sai anche tu, lo sai. Certo che non si riferiva, però ha insistito su questo paragone con la Rivoluzione Francese, con Robespierre, eccetera, eccetera, non è che poi uno fa un paragone così a caso, eh? Sì, ma poi Parenzo si mette lì a dire è un violento, cioè voi, Parenzo tira fuori da questa ghigliottina che è un violento, quando invece il concetto... Infatti io l'ho contestato. Sì, ma Cruciani, fammi finire, il concetto lì non era della ghigliottina, il concetto era che devono andare in galera, e quando è stato detto questo Parenzo ha detto è uno scandalo che voglia eliminare questi devono andare in galera, bisogna buttare la chiave, Ecco, sobrio, moderato. No, non siete seri per niente. La Zanzara. Chi ce l'hanno con me, non sono mica una mosca zenze. Povera zanzara, sempre fedele alla sua natura. Ora, detto questo, l'ascoltatore di prima ha ragione quando, quando se la prende col Partito Democratico. Oggi una persona molto vicina a Renzi, ripeto, si chiama Luca Lotti ed è il responsabile dell'organizzazione, sottosegretario, eccetera, eccetera, praticamente uno dei bracci destro di Renzi, ha detto che Orsoni non è iscritto al PD e che i media sono accaniti contro di noi. C'è un accanimento sul fatto che il sindaco è del PD. Non è per scaricarlo, ma Giorgio Orsoni non è del PD. Ma come non è del PD? Ma c'è gente del PD che vuole le dimissioni di Zaia. Cioè c'è gente ieri del PD, tra cui Parenzo, il tuo amico Zanonato, che chiede le dimissioni di Zaia. Ma che cazzo c'entra Zaia, scusa? Cioè non è che è indagato, c'entra qualcosa, non c'entra niente. Ha chiesto le dimissioni di Zaia ieri, perché c'è un tizio, un assessore di Forza Italia, che peraltro oggi si è dimesso da assessore, no, che... la, ecco, devi spiegarla tutta. L'assessore della giunta di Zaia. Ma che cosa c'entra? Che c'entra Zaia? Ma che c'entra Zaia? Guarda, io Zaia non lo conosco, non è che lo devo difendere per forza. Ma qua, ma stamattina persino Giachetti, che è deputato del Partito Democratico, ma che è una persona intelligente, ha detto: ma la gente del mio partito che vuole mettere in mezzo Zaia e che chiede le dimissioni del presidente del Veneto, a me non me ne frega niente di Zaia. Personalmente non lo conosco, ma guardo e leggo le cose che dice. Ma io ho mai giustificato quello che ha fatto Orsoni rispetto alle accuse. No, ma lascia perdere Orsoni, ma secondo te è normale che uno chieda le dimissioni di Zaia? Ma io non so, veramente, vado ai pazzi. Assolutamente sì, assolutamente. Come sì? Sì. Come sì? È giustificato? Beh, uno dei più importanti assessori di quella giunta è stato quello. Ah, è giustificato, divento pazzo. Secondo te è normale chiedere le dimissioni di Zaia? Beh, politicamente ci sta, poi possiamo non condividere, ma politicamente. Salvini, buonasera, vuoi rispondere tu a Parenzo? Io non ce la faccio più, guarda, io non ce la faccio. No, io lo aspetto a Pontida, avevamo scommesso che se pigliavamo il 6% veniva a piedi a Pontida, sono lì che lo aspetto io. Salvini caro, ci sarò e verrò a piedi a Pontida con i miei amici Rom che mi faranno da scorta, saranno 4 Rom, li chiameremo i musicanti di Brema, ci sarà il mio amico Udu. Vabbè, adesso non andiamo nei dettagli, non ce ne frega niente. Ognuno si accompagna con chi preferisce, io preferisco altre quattro compagnie. Verranno 4 musicisti Rom e suoneremo sul Sacro Prato di Pontida le bellissime le canzoni dei Balcani. Vabbè, ma infatti nessuno ti sfiorerà con un dito, così la smetterai. Ma sono felice di una cosa. No, ma tu hai, no, ma Salvini, che innanzitutto no, buonasera. Salutiamo Salvini. Buonasera. Allora, saluto da Salvini ha cambiato il volto della Lega finalmente. Dove sei Matteo? Dio, le corna sulla Polizia. Forzia, provincia di Pordenone, c'è il ballottaggio, famosa per la Electrolux, peraltro bellissima, sì, terra. Oggi ho fatto giornata di Veneto, e il Veneto non sono i 35 che hanno arrestato, il Veneto sono 5 sì, milioni di persone per bene. Si chiede le dimissioni di Zaia, mi sembra da manicomio. No, ma è Parenzo che... assolutamente da manicomio. Ma secondo Parenzo... ma Parenzo si arrampica sugli specchi come gli amici del Partito Democratico sono soliti fare, però è veramente una follia. Quando io sbaglio pago e chiedo scusa, ma se c'è uno specchiato, pulito, trasparente, che è un riferimento per i magistrati, per i giornalisti, è Luca Zaia, adesso se te ne arrestano 18... Attenzione, non spendere troppe parole, che hai visto, no, ma, su Luca, hai visto mai. Su Luca Zaia metto la mano sul fuoco. Ma attento, non la mettere, no, su nessuno. C'è un sindaco ai domiciliari, Ma che c'entra, mica della Lega? Mica è il fratello di Zaia. Una giunta guidata da Zaia, con un assessore alle infrastrutture e ai lavori pubblici, che assieme alla sanità, diciamo, sono i due capitoli di bilancio più importanti. E allora, secondo te, politicamente è normale chiedere dimissioni del presidente di una regione perché un suo assessore, stiamo parlando del nulla, del nulla, perché il PD, con la sua superiorità morale, la sua onestà e correttezza, evidentemente non è così superiore al resto del mondo, ma chi se ne frega. Ma perché non chiedono? Perché non chiedono? E poi chiudiamo su questa cosa qui. Perché non chiedono le dimissioni di Orsoni? Cioè, perché non li chiedono? Secondo la coerenza del PD, l'ho detto già ieri, vorrebbe che il PD chiedesse oggi immediatamente le dimissioni. Invece dicono che non è neanche del PD a questo punto. No, non solo dicono l'hanno che... trovato per una cosa pazzesca. Dai, è una cosa pazzesca. Senti, va bene. Io voglio. Ma la domanda è questa: Zaia ha condiviso gli atti fatti dall'assessore? Dai, basta con questa storia, non me ne frega niente, condivide gli atti di questo, non so se siano degli atti, questo qua che cosa ha fatto, cosa no, non ha fatto. No, non gli atti illeciti, gli atti politici commessi. Cioè, tu vai sempre al di là del bene e del male. Cioè, vabbè, comunque gli ascoltatori anche di sinistra sapranno distinguere fra quello, allora, che sta Salvini, in piedi, quello che lo sentito, Salvini adesso, quando decide dove sarà eletto? Noi cioè... non siamo ancora stati nominati. Vabbè, noi, avrei la, deciso, la no? L'Italica, avrei... no, l'Italica, ma c'è ancora in ballo il seggio, peraltro non si sa se al centro sia al sud. L'Italia è così rapida che ormai, cosa abbiamo votato 10 giorni fa, cioè, incerto... non sappiamo ancora dove abbiamo i seggi. Cioè, può essere pure che il seggio del centro, cioè quello che in teoria andrebbe a Borghezio, non è per Borghezio, ma o comunque per Salvini o Borghezio, ma è per il sud? C'è anche questa possibilità. Vabbè, tu allora, per non sapere né leggere né scrivere, intanto scegli il nord, no? Ma guarda, io domenica prossima andrò a Maletto, alle falde dell'Etna in provincia di Catania, quindi sì, mi sto appassionando anche a queste realtà. Io oggi sto girando il Triveneto, però... che vai a fare a Maletto? Ma abbiamo preso il 34% dei voti, la sagra delle fragole, che di cui io sono assolutamente... sono corruttibile con fragole e lamponi, lo dico agli ascoltatori, e quindi ci vado per capire, per conoscere, per combattere. Ho capito, ma hai scelto in che circoscrizione sarai eletto? Nord-est, no, nord-ovest? Quando mi comunicheranno la Lega dove ha i suoi seggi. Ma magari te lo comunicano tra 2 anni, ci saranno i ricorsi, le cose, che ne no, sai? No, devono farlo entro settimana prossima, se no la prima riunione è il primo luglio. Metti che sia così, no? Metti che sia nord-ovest, nord-est e centro. Non ho ancora deciso e non lo dico a voi. Vabbè, ma questa è una cosa assurda. Ma vuoi privare il Parlamento europeo della presenza di Marione Borghezio? Fammi godere del fatto di essere il più votato in Italia alla faccia di Parenzo con 380.000 voti. No, aspetta, però lì non è vero. Lì non è vero però che sei più votato in Italia, perché per il cumulo delle circoscrizioni sei più votato in Italia. Per il cumulo. Grazie. Ci sono stati 384.000 matti, lucidi folli, che hanno scritto Salvini sulla scheda da nord a sud. Quindi... Sì, però facendo il calcolo della singola circoscrizione, credo che sei secondo o terzo, quello che è. Vabbè, mi accontento. Rispetto a una Lega che i Parenzo davano per morta, mi accontento di essere Parenzo, come terzo, allora, innanzitutto quando sarà Pontida? Vogliamo dare questo annuncio, Matteo, quando sarà Pontida? Ma per Parenzo la organizzo in una settimana, se vuole, non è un problema, pur di vederlo arrivare a piedi con i suoi amici rom. Ma a luglio si fa qualcosa o no? No, a luglio no. Della Madonna, ne riparliamo a settembre, sembra magari per Parenzo è più comodo anche Venezia, se avrà un sindaco, se qualcuno ci potrà dare i permessi per fare la nostra manifestazione. Sì, vengo a Venezia a bordo di una gondoletta attraversando il mare. Senti, ma perché non si sente niente, Parenzo? Cioè, non so che cosa è successo, adesso si sente poco, è una cosa pazzesca, guarda. Senti, ma Sabini, ma in alcuni casi, come nel caso di Cabobo, ci vorrebbe la pena di morte, perché gli hanno dato 20 anni, io oggi ho fatto un ragionamento, Cabobo 20 anni, Corona 15 anni, questa è follia. Le marchi, con nessuna simpatia per Corona, ma è uno stato fallito quello che lascia in carcere per più tempo Corona rispetto a Carbobo, è uno stato fallito. Io sono però tempo, no, perché quello è 15 e l'altro 20, però comunque. Io sono ma vedrai che fa indulti e mica indulti. Comunque io sono culturalmente, personalmente contrario alla pena di morte, sono assolutamente per il carcere a vita per certi reati e per la castrazione chimica per chi fa qualcosa di male nei confronti dei bambini. Per la pena di morte però non... Nemmeno non per i pedofili? No, io i pedofili castro. Io subito, pedofili, subito. Anzi, questa sarà una delle prime proposte che faccio a Bruxelles, perché ci sono 6 stati europei civilissimi dove la castrazione chimica è una sperimentazione già in corso, quindi io i pedofili li castro chimicamente. Però subito, cioè una volta accertata la pena definitiva, castrazione. Assolutamente sì. Cioè senza consenso. Non lo devi più rifare, non lo devi senza più rifare consenso. Per tutta la tua vita. In alcuni stati europei puoi scegliere se sottoporti tu lo faresti senza avere consenso. Uno sconto di pena. Ma guarda, uno che fa male a un bambino, io non ci vedo. Io non ci vedo. Dunque senza consenso, diciamo, castrazione. Assolutamente. Senza consenso, ma anche pubblicazione di indirizzo, in alcuni stati in America succede, funziona. Assolutamente sì, io non foto, io voglio sapere se nel mio condominio, se nella mia palestra, se vicino alla scuola materna dove va mio figlio, c'è qualcuno che in passato si è sporcato di una schifezza del genere. Pubblicità, torniamo subito, voglio sentire Parenzo su questo, però la sua anima garantista sulla questione dei pedofili venga fuori pure in questo caso, venga fuori, castrazione chimica senza consenso, eh? Attento al DDT, sai? La zanzara. Fa male solo a chi non sa ridere. E la zanzara. Ma dov'è finito il nostro amico? Adesso sembra che sono tutti amici, Parenzo. Dov'è finito, come si chiama la voce? Buttiglione, quello che abbiamo appena ascoltato. Non si sente più, non vorrei, no, per carità. Buttiglione? Comunque, senti, non si sente. Cerca di cambiare telefono perché veramente è successo qualcosa. Allora, io voglio solo, prima di tornare con Salvini, voglio solo dire una cosa. È normale, è un paese normale quello in cui si danno 20 anni al signor Cabobo, che un giorno è uscito con il piccone in mano e ama Cabobo, matto, quello che volete, eccetera. E poi si danno 15 anni al signor Corona, 9 anni alle signore Marchi, signore Mala, tua amica Marchi, Parenzo, tua amica Marchi, 9 anni. Corona 15, Cabobo 20. C'è qualcosa che non torna in questa roba qui? C'è qualcosa che non torna? No, torna tutto, torna tutto. La giustizia funziona. Vabbè, io mi arrendo di fronte a queste cazzate di Parenzo. La giustizia funziona. 20 anni a Cabobo, 15 a Corona, 9 alle Marchi. La giustizia funziona. Vabbè, d'accordo. Ma guarda che 20 anni in genere in Italia è il massimo della pena che viene erogata, eh? Ma io non so se sia il massimo. 20 anni, ha ammazzato 3 persone. Corona avrà fatto qualche ricatto, qualche cosa. 15 anni, fuga, eccetera. 15 anni, 5 anni di meno. Se l'ergastolo viene dato in casi della. Vabbè, ma tu sei veramente al di là del bene e del male. D'accordo? Allora, c'è un altro caso incredibile che riguarda marginalmente anche la Lega e Matteo Salvini, che è con noi, segretario della Lega Nord. Che felpa ha oggi, Salvini? A questo momento sono in maniche di camicia perché qui a Porcia fa caldo, ma stasera per la chiusura a Vittorio Veneto ho la felpa del Veneto, ovviamente. Ma quante felpe hai, scusa Matteo? Ormai me ne hanno regalate una cinquantina, o quella di Mariano Comensi, o quella di Lumezzane, o quella di Ponteranica. Ma come fai? Dove, Roma. Dove le tieni, scusa? C'ho un armadio in ufficio e a seconda dei posti dove vado, posto che vai, felpa che trovi. Ma chi te le, chi le cura, chi le pulisce, chi le lava? Ah sì, ma no, le lavo io quando le metto. Comunque oggi una signora mi ha regalato un libro su canzoni inedite di De André, mi hanno regalato un salame e poi un pezzo di mortadella. Vabbè, ho capito, ma ste felpe da qualche parte staranno, cioè non è possibile ce l'hai in ufficio, dai, ce l'avrai a casa, cioè avrai anche tu una colf filippina. Ho uno di quei letti che si alzano e che sotto c'hanno lo spazio, che sotto è tutto pieno di magliette, perché adesso è la stagione estiva delle magliette, o delle magliette della Lega da 20 anni a questa parte, del Milan, sì, alcune sono eccezionali, alcune sono immettibili perché sono un po' truculente. Cioè, poi quelle del Milan sono truculente? Quelle del Milan? Anche quelle della Lega. Chiamavamo Brigate Rossonere e Fossa dei Leoni. Cioè, cose tremende sono. Cose cosa che comporterebbe almeno un anno di galera per istigazione a delinquere. Allora, io ricordo, fra le condanne deliranti, i 9 anni soli al Rom che investì e uccise un vigile urbano in bicicletta a Milano, 9 anni, perché poverino il giudice ha detto che era cresciuto in un contesto sociale difficile, in un campo rom, e dimmi te se questo ti legittima a stirare un vigile urbano e a passargli sopra col SUV che hai rubato, peraltro. Vabbè, però non è che in quella, era passato sopra apposta, credo, cioè in quel caso. Ma non so, io non sono mai passato sopra un vigile urbano in bicicletta, scappando. No, non quello no, capitato. però in quel caso non è omicidio, sai com'è negli incidenti. Comunque, oggi a proposito di Rom, quando prendevo l'autobus a Roma, ha detto il Papa, e salivano degli zingari, l'autista spesso diceva ai passeggeri: guardate il portafoglio. Aspetta, dice il Papa. Il questo Papa si faccia una domanda e si dia una risposta, evidentemente. No, secondo il Papa invece è disprezzo nei confronti dei Rom. Io mi sono permesso di attaccare il Papa. Adesso siamo in due. Coerentemente fallo pure tu, però. Coerentemente fallo. No, ma io dico, c'è qualche Rom che lavora. Perché sì. Sennò poi mi scrivono, ogni volta mi scrivono le letterine all'ufficio antidiscriminazioni e lei è cattivo. Qualche Rom, pochi. Alcuni Rom lavorano. Pochi Rom, diciamo. Che altri si dedichino al furto, al borseggio, all'accattonaggio, alla rottura di balle al prossimo, al semaforo in metropolitana, estorcano soldi, rubino rame. Non lo sa solo l'autista dell'autobus che prendeva Papa Francesco, lo sa il resto del mondo. Dunque Papa Francesco è poco informato, dici tu. No, oggi era la giornata dedicata agli zingari e quindi il Papa fa il Papa e deve avere il cuore buono per tutti. Ho capito, però un po' di cazzate, io mi posso permettere che ha detto una cazzata, eh? Io questo non mi potrei mai permetterlo nei confronti di Papa Francesco. Ma lo pensi? Diciamo che io sto con l'autista, in caso se l'autista diceva occhio al portafogli, io sono solidale. Cioè non è uno che disprezza l'autista. Gli zingari, cioè non è uno da accusare, no, secondo la legge antidiscriminazione, perché qui va a finire che gli autisti degli autobus di Roma, Parenzo, che dicono alla gente state in guardia perché c'è qualcuno che vi ruba il portafoglio, viene accusato. No, non lo puoi dire tu, perché discrimina gli zingari, processo, a processo, in tribunale. Parenzo, si arriva a questo, lo sai che si arriva a questo, sì. Questo è il mondo del pensiero unico che ci stanno preparando. Io sono ovviamente il negazionismo, chi nega le camere a gas e lo sterminio degli ebrei è un cretino, un demente, ma non deve finire in galera. Se uno ha queste idee deve poter essere libero di esprimerle. Questo anche secondo io me. Io le contesto ovviamente, però non lo metto in galera, come l'omofobia. Io non vorrei che un domani, no, se io sostenessi però che due uomini non si possono sposare, non possono adottare dei figli, mi dicono che sono un omofobo e mi condannano, no? Questa no, è per dirlo così no, ma se tu dici, io vado più là addirittura, se tu dici questo è un frocio di merda, cioè un'espressione che si può usare di insulto per andare alla strada, secondo me non devi andare, cioè non ci deve essere una legge speciale, se uno vuole ti accusa di diffamazione, cioè vai in tribunale per diffamazione. No, Parenzo, che dici? L'importante è che non limitino la libertà di pensiero o di parola. Tutto Parenzo, che dici? Non ho capito. No, guarda, io odio i luoghi comuni, mi stanno sui coglioni. Allora, quando uno sale su, uno ruba, indipendentemente, uno può essere Rom, può essere negro, può essere leghista, può essere del Partito Ma quanti sono in percentuale i Rom che lavorano, secondo te, ma Salvini? Ma guarda, io sono stato a visitare un campo Rom incredibile a Torino, a Lungostura, è una vergogna, ce l'ho aperto, io domando dove sono, dov'è il Tribunale dei Minori con quei bimbi? A Torino, con quei bimbi nudi che giocano in mezzo ai topi che dovrebbero essere sottratti a dei genitori. Ma quanti sono quelli che lavorano in percentuale? Ma ci sarà un 10% di Rom che lavora? 10, che ne so. Sono buono? Vuoi essere buono. Guarda che molti Rom non possono dire che hanno un lavoro, non che è sono vero, Rom. Non è vero, è una puttanata questa. E invece è così. Perché tu, allora, sentiamo Salvini, la sua avrà una domestica a casa, un domestico, tu ne hai quattro. Ne ho cinque, uno per No, per guarda, stanza. Cruciani ha, un giorno racconterò cosa fa lui con il Ma suo se servitore. Ma sto in un bilocale, cosa ci faccio in un bilocale? Vabbè, ce l'avrai qualcuno? Che viene a pulire, non è che fa tutto tua moglie, la tua compagna, quella tutto che noi facciamo. Non ce l'hai noi. Una donna di servizio? Ma poi noi leghisti laviamo poco le cose che ci mettiamo addosso, è notorio. Quindi qualora dovesse presentarsi da te un signore, dice: io voglio venire a fare pulizie a casa di signor Sartini, tu giustamente gli chiedi le credenziali. Beh, no? Certo, qualora questa persona magari te l'ha segnalato un amico, dici: cazzo, allora? Perché un amico me l'ha segnalato. Qualora questo ti dicesse che ad esempio dorme a via Triboniano, beh, dipende, se dorme regolare, se c'hai i documenti regolari, una residenza, no, se dorme in un campo Rom, non lo prenderesti. Certo che no. Ma se dormi in un campo Rom senza avere una residenza ufficiale, ti dico: no, scusa, a casa mia non c'entri. Un ascoltatore normale che prenderebbe a far servizio uno che vive in un campo Rom. Ma è normale. Se Parenzo e tre intellettuali radical chic, io penso che gli altri. Io dico semplicemente che vittima di questo pregiudizio lo posso essere anch'io. Dopodiché so che molte persone nelle fabbriche del nord, ad esempio, ma se uno vuole cercare un lavoro deve avere una residenza con un indirizzo, abito in via Trivulzio 10, ecco, benissimo. Ma non tutti stanno a via della Spiga come ma no, via della Spiga, anche via a Quarto Giaro, anche a Quarto Giaro, qualsiasi posto, Quarto Giaro, periferia di Roma, periferia di Napoli, un indirizzo normale, no, dove abiti, si presenta uno, dove abiti? Campo Rom Triboniano, eh beh no, a Campo Rom Triboniano se ne occupi la forza pubblica, io a casa mia non ci voglio uno che ma abita... Ma guarda che sono riconosciuti dal comune quei posti, non sono dei posti... comunque ormai a Milano il problema Pisapia lo risolve perché vuole dargli delle belle case, quindi il problema non si porrà più. Allora, il bello è poi che una signora che si chiama Diana Pavlo, dice che amica di Parenzo, ha detto che il Papa non deve utilizzare la parola zingari, non deve utilizzare... Quindi non va bene neanche quello. Nessun dubbio sulla volontà di usare questa parola con un'accezione positiva, ma noi preferiamo essere chiari. Cioè, ha contestato il Papa la tua amica Pavlo, dice Parenzo, perché ha detto no zingari... Non è abbastanza buono neanche, no, perché c'è una sinistra che veramente... Scusate, ragazzi, siete di Napoli voi? Che, sì. Ah, ecco, perché sono ragazzi di Napoli. Bellissimo. Sì. Sono al telefono col signor Salvini. Dite qualcosa a Salvini, che pensano di Salvini? Della Lega Nord, signor della Lega Nord. Vi piace la Lega, ragazzi? Fai schifo. No, come fai schifo? Glielo passo un attimo, maestro. Ti faccio professore. Si chiama lei? Rolando. Lavora, signor Rolando? No. Bravo. Oh, non lavoro. Quanti anni ha sto Rolando? Quanti anni ha? Aspetta che c'è un signore di colore che ci sta insultando. No. Fratello, adesso arriviamo, stai tranquillo, andiamo via da qua, anche questo scemena, amico mio. Dammi un attimo, passami sto Rolando. Aspetta che ti passo il compagno Rolando, che sì. È qui davanti, bellissimo, perché è davanti a Palazzo di Giustizia di Napoli. Sì, ma che fa nella vita questo qua? Che fa nella vita? Cosa fa adesso te lo passo? Lì vedo un po' di immondizia però lì davanti, amico. Dai, passami sto Rolando, su, non fare il coglione. Ti lo passo, ecco. Sì. Pronto? Pronto? Rolando? Sì, mi dica. Sì, ciao, buonasera. Quanti anni ha lei, signor Rolando? Io ho 20. 20 anni. Che fa? Studente, disoccupato? Che fa? Studente universitario. Studente universitario. Che pensa del segretario della Lega Matteo Salvini, che ha preso alle elezioni un sacco di voti, come sai, eccetera? Sì, non me l'aspettavo questi voti che ha preso, perché comunque non condivido il suo pensiero. Ma prima ha detto fa schifo, adesso ha cominciato a fare il diplomatico. Cioè, prima ha detto fa schifo, non condivido. Ma comunque, guardi, glielo passo. Salvini, parli con questo signore napoletano di 20 anni, Rolando. Signor Rolando, c'ha 20 anni. Rolando, qua siamo, sì, pronto. Siamo a Pordenone. Pronto, Rolando? Pronto. Ci vediamo a San Siro per Milan-Napoli, dai. No, ma tanto siete stati fortunati quest'anno, Ma con che cosa? Con la squadra che abbiamo. Comunque io a Napoli ci tornerò volentieri, perché al di là degli scontri calcistici, io penso che possiamo essere utili a... Ma t'hanno preso quasi ammazzate, t'hanno preso ammazzate a Napoli. Rolando, c'eri pure tu. Erano i giorni di Jenny la Carogna, erano giorni un pochino caldi. Un pochino... Rolando, se tu vedi Salvini per strada, che fai, Rolando? Gli stringo la mano da signore. Ah, bravo. Vedi, questo è Napoli. Questo è Napoli. Non stringi la mano. Non solo cioè, a te sostanzialmente Salvini non piace, ti fa quasi schifo. Cos'è che hai detto prima? Però poi se non è che lo pigli ammazziate, no? Per strada. Ma l'Italia è piena di persone per bene che possono non andare d'accordo, ma si rispettano. Allora, pubblicità, torno subito. Pubblicità, ancora Matteo Salvini in collegamento con noi. In questo caso, le provvidenze di Dio. La Zanzara. Sono come zanzare. Più ci penso però, Parenzo, più sono convinto che questa cosa di Renzi che dice che bisogna processare i politici che prendono tangenti per alto gradimento sia una roba così, diciamo, una dichiarazione per l'opinione pubblica. Perché che vuol dire concretamente? Vuol dire che in un paese normale come sono gli Stati Uniti o l'Inghilterra o la Germania stessa di Frau Merkel, per molto meno si finisce per sempre di fare la carriera politica. In un paese come il nostro, ma l'alto tradimento che c'entra? L'alto tradimento vuol dire che siccome tu dovessi essere un servitore civile, perché sì, ma la parola alto tradimento è un'altra cosa. Cioè, allora, perché siccome altre, prima ha detto in giornata aveva detto il mandato elettorale, sì, ma ho capito benissimo, ma questo l'ho capito benissimo cosa vuole dire Renzi. Come al solito mi manca l'appiglio pratico di quello che dice Renzi, perché da una parte sostiene che le norme già ci sono e non è questione di norme, ma è una questione, certo, è una battuta, non ha nessun risvolto pragmatico. Beh, no, magari no, magari vuole processare i tangentisti secondo la corte marziale. E Salvini cosa farebbe a chi prende tangenti? E nella Lega ce ne sono stati pure nel passato, cioè, per carità, come suo. Lo lascerei molto semplicemente in galera fino in fondo, senza indulti o svuota carceri, perché poi il partito di Renzi è quello che vota gli sconti di pena, gli indulti e gli svuota carceri. Quindi un conto è fare però il fenomeno. Però Renzi è contrario all'amnistia e all'indulto, bisogna dirlo. Il PD li ha sempre votati. Mi risulta che la Lega fu coinvolta nella maxi tangente Enimont, ad esempio. Vabbè, ma che c'entra questo? Scusa. Parenzo è fermo a 20 anni fa e vuole le dimissioni di Zaia perché hanno arrestato un sindaco del PD. Quindi, vabbè, Parenzo vive in un mondo tutto suo. Io, però, devo fare un intervento qua a Porcia. Sì, no, ti lascio con una cosa, però. Qualcuno ha detto che Salvini potrebbe essere addirittura Toti, credo, il nuovo leader del centrodestra. Cioè, ha detto perché no? Mi sopravvaluta. Ti sopravvaluta. Io mi godo la Lega, il nostro risultato, sto cercando di portare a compimento i 6 referendum, per cui ringrazio Beppe Cruciani, che a differenza di David Parenzo è venuto a firmare quello per regolamentare la prostituzione. No, però ti sopravvaluta che significa? Ti sopravvaluta, spiegami che significa. Che adesso, insomma, spero che il centrodestra abbia anche qualcun altro oltre Matteo Salvini su cui puntare. Detto questo, cioè non ti senti in grado di guidare una coalizione, per esempio, là? Ma innanzitutto non c'è un centrodestra in questo momento. Finché c'è Berlusconi, io l'accordo con Forza Italia non lo faccio. No, io domani vedo Berlusconi. Domani vedi Berlusconi. E come mai? Per parlare di Milan soprattutto. No, dai, come no? Come di Milan? Ma per chiedere se c'è un progetto comune di centrodestra che parla di tasse, di burocrazia, di federalismo, di immigrazione, di famiglia, io ci sono, altrimenti non mi interessa. D'accordo, dunque il problema non è Berlusconi, il problema è il centrodestra che deve fare il centrodestra, eccolo. Se vuoi ti passo il nostro candidato sindaco. No, di Portia, no, no, che c'è la par condicio. Ciao, traffico. C'è il traffico. Mamma mia, no, il traffico, vi prego. No. La Zanzara. Pronto, Cruciani. Senti, volevo dirti che Parenzo m'ha rotto i coglioni. A me no, però, cari amici miei, voi potete dirlo tranquillamente, però a me non mi ha rotto i coglioni. Maurizio dalla provincia. Alle volte sì, io sono d'accordo. Alle volte anch'io mi rompo i coglioni da solo, guarda. Cioè, ti rompi i coglioni per Parenzo da solo, dici? Solo, sì. Cioè, per quello che dici ti rompi i coglioni. Sì, no, per quello che sento da alcuni ascoltatori, per quello che sento ancora. Quello che dico, no, sennò sarei un pazzo scatenato. E che ne so, ogni tanto uno ci ripensa e dice: cazzo, ho detto una stronzata, che rottura di coglioni. Io ogni tanto sì. Ciao, fratello. Chi è fratello? Chi è fratello? Un ragazzo di colore, nato via. Ma perché fratello poi, scusa? Perché fratello? Lo pigli per il culo chiamandolo fratello? No. Comunque è stato eccezionale quello. Salvini, che ne pensa lei? Mi fa schifo Salvini. Poi è venuto in diretta e si è cagato sotto, vabbè. Maurizio dalla provincia di Milano, dai. Ciao, pronto? Dimmi Maurizio. Senti, io, vabbè, tu continui a essere impegnato nel sociale, fai volontariato a tenerti quella meba lì a fianco. Dovrei denunciarlo perché Come sta tua sorella? Sì, benissimo. Ascolta, Cruciani, volevo dirti che ieri sera stavo per uscire di strada. Sì, per la salute. Ieri sera stavo per uscire di strada dopo che ho sentito quel cretino di David Parenzo dire che avrebbe dato soltanto. A casa tutto bene? A casa va tutto bene? Sì, a casa tua no, però purtroppo. Sai cosa c'è, no, caro Parenzo? Cioè, che io mi auguro che domani qualcuno per strada, qualche disadattato, possa prendere un piccone e darti una bella picconata in testa a te e alla tua famiglia, no? No, ascoltami bene. Un attimo. Aspetta un attimo perché sta ecco tu che gli è partita la frizione. Ecco che gli è partita la frizione. Mi è partita la frizione, ma sai perché mi parte? Perché non puoi andare a dire che 20 anni sono sufficienti. Ci vorrebbe la pena di morte, come ha detto quello. Ma non c'è. Ci vorrebbe la ghigliottina. Non c'è. In subordine caro barbaro. Con i lavori forzati. Caro mio barbaro con le corna sulla testa. Vedi però come sei democratico, non fai parlare mai nessuno. Lascialo parlare. Interrompi sempre, cazzo, non hai il dono dell'ascolto, ma sei un ignorante, interrompi sempre. Lasciami parlare per 30 secondi e poi dopo io lascio parlare te e vediamo se riesci a farmi cambiare idea. Volevo soltanto chiederti una cosa, ma tu pensi che questo Cabobo, poi l'abbiamo invitato noi, ma non so neanche da dove cazzo venga fuori. Da questo Cabobo 20 anni li farà veramente in galera, dopo che ha ammazzato così, perché si sente un disadattato. Mi auguro di sì. Ma vai a far culo. Dovrebbe farsi l'ergastolo con i lavori forzati. Allora, da noi la giustizia non c'è. Ha detto prima, nel nostro paese, il tuo Cruciani, che non si possono dare 15 anni a Corona, ma ti rendi conto? Non ha ammazzato nessuno e tu discuti anche i 20 anni dati a Cabobo. Ma dove cazzo vivi? Ma non ho discusso i 20 anni, genio del male, ma genio del male, non ho mai detto che i 20 anni sono giusti. I 20 anni vanno benissimo per un criminale assassino che è stato dichiarato comunque un malato al signor Cabobo. Ho detto che deve stare fuori, non mi pare, deve stare in galera, ovviamente qualcuno lo deve anche curare perché è chiaramente un pazzo squilibrato, no? Non possiamo pensare che sia una persona normale, uno che con un piccone fa una strage in mezzo a una strada. Siccome non è una persona normale, allora... è una persona pericolosa, deve stare in galera, anche possibilmente sottoposto a pesanti cure mediche. Non ho contestato i 20 anni, anzi giusta la pena dei 20 anni. Non c'entra nulla il paragone con i 15 anni. No, ma è troppo poco, è troppo poco. Ma è troppo poco, ma non lo dire. Le pene in Italia sono queste, l'ergastolo. È troppo poco. I 20 anni è considerato il massimo della pena da noi, perché l'ergastolo viene dato soltanto in casi eccezionali. Vabbè, fai parlare, ma tu sei, vai, stai lì e spacchi il capello. Maurizio dice una cosa molto semplice. Basta. Maurizio, cosa dici? Basta, io mi mangio la pizza napoletana, ma non sto ascoltando, non è capace di ascoltare, sto parlando contro il nulla, porca puttana. Sto dicendo una cosa soltanto, che questo dovrebbe far l'ergastolo. I 20 anni, come dici tu, non sono sufficienti. Dovrebbe farsi tutta la vita in galera, sì, possibilmente sì, lavorando ai lavori forzati, perché a me girano anche i coglioni di doverlo mantenere, ok? Perché non l'ho chiamato io, è venuto qui, allora uccidilo, rompe le palle, allora lo devo anche mantenere. Altrimenti allora vado a fare l'ergastolo nel suo paese, ma l'ergastolo, i 20 anni non esistono. Spiegami perché dovrebbe fare solo 20 anni. Se è un malato, caro David Parenzo, beh, ma perché è un malato sicuro? Mandiamolo in un ospedale, curiamolo. Non deve fare neanche un anno di galera se è malato. Ma tu puoi tenere, ma inizialmente, se ammetti che è giusto 20 anni, vuol dire che questo è un delinquente e allora deve passare la vita in galera. Ma guarda, ti posso dare una piccola informazione in questi secondi, intanto puliscidi le orecchie del cervello. Pronto? Aspetta un attimo. No, volevo spiegare a questo signore che ad esempio anche per altri delitti, tipo il caso Juncker, forse lo ricorderete, qualcuno a Milano se lo ricorderà. Buonasera. Professore, aspetta, c'è il professore. Buonasera, maestro. Come andiamo? Beh, insomma, sono, come voi sapete, un po' incazzato con voi, però è molto incazzato. È la logica. È la logica Zanzara... Pubblico. Allora, innanzitutto buonasera professore avvocato Carlo Taormina, eccoci qui. Allora, caro professore, però lei ha detto delle cose tremende, ha scritto delle cose terribili, noi non siamo andati leggeri, però era una battuta, quando abbiamo detto l'altro giorno qualsiasi cosa tocca, io in particolare ho detto, era una battuta che mi è uscita fuori così, ho detto, ultimamente professor Taormina... Una sorta di remida al contrario, ha detto. Questo l'hai detto tu, remida al contrario, questo l'hai detto tu. Ma voi non vi rendete conto che una cosa è essere, come dire, amanti dell'arguzia, della cosa, eccetera. E un'altra cosa poi è, diciamo così, andare nel campo più strettamente di tipo professionale, per cui nel quale credo che debba essere sempre osservata una regola di grande serietà, prima di tutto da parte mia, per cui questo tipo di cose io le prendo finché hanno un contesto di divertimento, di riflessione anche seria, ma comunque... No, professore, scusa un attimo, la battuta era, mi è stata suggerita così dalla mia mente malata, da che cosa? Dal fatto che tu hai appoggiato Grillo adesso e Grillo ha perso le elezioni, per modo di dire, perché poi ha preso sempre il 21%. Ma io guarda, io penso che se Grillo dovesse andare alle elezioni con una qualche correzione di tiro sotto il profilo non del chiasso che fa, perché questo anzi fa molto bene, ma dal punto di vista della propositività della sua iniziativa, manca tutto e tutti. Poi questi giorni credo io ho detto semplicemente una cosa, che Grillo ha perso, sei diventato... Ma dove ha perso Grillo? Vabbè, un po' ha perso, Grillo. Dai, secondo me, rispetto... Ma facciamo un ragionamento. Vabbè, però professore, scusa un attimo, maestro, lasciamo perdere Grillo. Io stavo dicendo semplicemente una cosa, che hai sostenuto Grillo e Grillo, diciamo, tra virgolette, ha perso le elezioni. Dopodiché ultimamente hai avuto qualche smacco sacco, appunto, ma così era una battuta, cioè, che ne so, la vicenda di Rignano, no? La vicenda Rignano, tutti la assolti, tutti assolti. Ma certo, ma io non sapevo che sarebbero stati assolti, perché si tratta di indagini che sono state fatte con i piedi, che hanno impedito di giungere alla identificazione dei veri responsabili. C'è stata, ho capito, stesso, ma sono stati assolti, i presunti pedofili sono stati assolti. Ti voglio dire, Cruciani, che la mia onestà intellettuale è stata tale per cui quando ho concluso come parte civile, sì, non ho concluso e quindi non ho chiesto la condanna di alcune delle persone per le quali in origine avevo fatto l'appello. Per cui, a dimostrazione del fatto che ho seguito la logica del processo portava a dover concludere. Al di là di questo, perché te la sei presa? Perché te la sei presa per quella frase che abbiamo detto, che ho detto, remida al contrario, eccetera, eccetera? Ma perché se voi siete sempre irriverenti nei confronti della serietà delle cose, mentre tra di noi ci possiamo capire, chi ci ascolta può anche pensarla diversamente. Comunque, io siete accetto, dei maledetti fascisti che parlate del prossimo siete dei senza... maledetti? Beh, vabbè, che siete dei maledetti fascisti mi pare che ormai sia un fatto acquisito. Ma come acquisito? No, un fatto acquisito, dite le cose senza contraddittorio, dicendo cose orribili, certo, vi denunzio, dai. Era stato certo, perché mi era stato riferito che erano stati fatti degli apprezzamenti tra virgolette nei miei confronti da parte soprattutto di quel personaggio veramente sempre più inquietante, che è David Parenzo, specialmente adesso che circola per le varie televisioni, diciamo così, a pagamento, per così dire, e quindi non dire a pagamento, scusami, tutte le televisioni dove uno va se così. Vabbè, comunque la frase incriminata è questa, attenzione, la frase incriminata è questa, attenzione. Perché tu lavori gratis, scusami Carlo. Io mai lavoro gratis, nemmeno tu devi lavorare gratis. Però insomma, ma che sei matto, gratis? Io non lavoro mai gratis, mai, mai ho lavorato gratis, nemmeno il professore ha lavorato gratis. Aspetta un attimo, la frase incriminata è questa. Ah, vorrei segnalarti, caro Parenzo, che qualsiasi cosa tocchi il professore avvocato Carlo Tormina, che omaggio ovviamente, beh, questa finisce a puttane, perché adesso nell'ultima settimana aveva sostenuto Grillo. Guarda che si arrabbia adesso. Lo so, si arrabbierà, però lo dico anche per così, per un elemento di chiarezza. Cioè, qualsiasi cosa tocca Taormina. Cioè, tu dici che è un remida al contrario. È una cosa pazzesca. Trasformava in oro. A un certo invece... punto ha detto Berlusconi, basta, è un buffone, eccetera. Alfano, non ne parliamo, eccetera. Voto Grillo. Bon, tonfo elettorale di Grillo. Dai, su. Professore, ha notato l'omaggio all'inizio, no? Ha notato l'omaggio. No, non l'ho notato, francamente. Se lo fa riemergere un po' più chiaramente, forse lo capisco. Era perché una volta che Taormina appoggia Grillo, Grillo piglia una batosta elettorale. Era curiosa sta cosa. Il problema di Taormina è un altro. Il problema di Taormina è che Taormina prima era radicale, per questo gli vogliamo tutti. Ma io sono sempre radicale. E il fatto che i radicali allora non ci sono. Ad appoggiare quelle follie di Grillo che ma le follie sono di questi ladri che ci circondano, ma che stai dicendo? Amico mio, io ho premesso che non voglio niente da nessuno, che anche se mi dovessero tirare per la collottola io me ne sto a casa mia. Io sono un elettore che esprime le sue opinioni. Siamo contornati di ladri. Mi risulta allora, però, che sei stato condannato a 10 mesi per avere falsificato un legittimo impedimento. Ma io non ho falsificato niente, poi un giorno affronteremo questo problema. Allora, intanto che è stato condannato. Chi è stato condannato? Ma Opis è stato condannato. Ma io non sono stato assolutamente condannato da nessuno, ma per carità. A 10 mesi mi risulta. Che ma cazzo per ne carità. Ma come ma no? Leggo qua. Ci vai mai in carcere a trovare i tuoi assistiti? Carcere. Ma guarda che i miei assistiti non stanno in carcere, stanno fuori. Perché... Beh, alcuni stanno in carcere. Beh, qualcuno per forza ci sta in carcere, non c'è avvocato che non abbia... Ma tu non ci vai mai però in carcere, mai entri dentro in carcere? Raramente. Perché carcere ti fa schifo, no? Giustamente. No, io non è che mi fa schifo il carcere. Però ti fa impressione. Sono sempre ambienti che non portano buono. Ho capito. Però uno fa l'avvocato, ogni tanto in carcere... È come il medico che non va in sala operatoria. Non è così. Aspetta, professore, che torniamo dopo la pubblicità. Carlo Tormina è con noi per parlare anche di altre cose molto, molto importanti. La Zanzara. Ma qui è tutto un casino che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Lo dico io, non facciamo ridere, amici miei. Qui noi con i soldi nostri manteniamo un ente che si chiama Autorità Nazionale, io lo ripeto per l'ennesima volta questa sera, Autorità per il controllo degli appalti. Appalti pubblici. Sì. Ah, degli appalti pubblici, esattamente, perché è una vergogna una cosa del genere, una vergogna. Si chiama Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con gente che prende stipendi di 200.000 euro, consiglieri. Abbiamo sentito prima le cifre, costa circa 20 milioni l'anno, una cosa del genere, solamente per i dipendenti, 50 milioni in tutto l'apparato, per non fare una beniamata mazza, per non controllare nulla. Allora mi verrebbe voglia di dare ragione all'avvocato professore Carlo Tormina da questo punto di vista, no professore? Ci sono degli enti pubblici qui, caro professore, che non fanno una mazza, che bisognerebbe abolire subito, immediatamente. Premesso che io in carcere ci andrò quando starete in galera voi e vi verrò a trovare, dato che il vostro amico, l'amico Davide Parenzo, dice che l'avvocato che non va in carcere è come il medico che non va, il chirurgo che non va in sala operatoria. Premesso questo, credo che ormai sia un dato acquisito, siamo immersi nella ma pure di peggio, perché veramente. Ma poi la cosa che fa impressione, ecco perché la forza di Grillo, capite? Cioè, ma tu sei diventato Grillino, dai, tu che sei diventato Grillino, professore. Io sono ma tu hai votato Grillo adesso all'Europea? Certo, certamente. Certo. Io ho votato Grillo perché io ritengo che il voto sia una cosa strumentale. In questo momento bisogna sfasciare tutto. E il Mose di Venezia lo dimostra, perché per l'ennesima volta siamo accerchiati da gente destra, sinistra e centro che pensano solo a rubare. Stiamo a parlare dei finanziamenti ai partiti e tutte queste cose qua. Ma hanno trovato il sistema di pompare da tutte le parti, non hanno più bisogno nemmeno del finanziamento dei partiti, perché se ne frega. Però scusa, Berlusconi adesso vuole fare l'alleanza con la Lega? Che dice? È finita? È morto ormai. Berlusconi ormai credo che, il padre nobile è già una posizione che non gli compete più dopo tutto quello che cioè è ormai successo. Che cos'è? Circondato ormai dal cerchio magico. Ma il cerchio magico, ma di magico c'è poco, francamente. È irriconoscibile Berlusconi. Che di magico sia proprio. Poi adesso c'è questo Toti che ha preso questa. Che te ne pare? Che me ne sembra di Toti? Me ne sembra un impiegato delle tasse, insomma, ecco, questo. Come un impiegato delle tasse, professore? Sì, ha questo tono quasi da timbro messo sulle cambiali di Forza Italia, che ha la possibilità di fare questo, di sostenere quest'altro, eccetera. Sono dei cadaveri ambulanti, ormai mi domani pare che chiederò il sequestro dell'audio, perché mi dicono che Cruciani e Parenza hanno detto di me cose orribili e disonorevoli. Certo. E infatti l'ho fatto. Ma non c'è stato bisogno del sequestro. Non c'è stato bisogno del sequestro, perché è tutto riportato su YouTube, quindi appunto da lì ho preso tutto quanto. E che quindi fai? Ci denunzierai? Ci denunzi? Certo che vi denuncio, fino a quando non la smettete di prendere in giro le persone per bene, hanno il coraggio di. Ma voi sapete una cosa? Io che vi avevo sappiamo? Chiesto, vi avevo chiesto di avere un contraddittorio. Ma ci abbiamo provato con quello là degli avvocati gay. Quello degli avvocati gay non vogliono fare il confronto con te. Che dobbiamo fare? Non vogliono fare il confronto con te, lo devono fare con voi, perché in giudizio mi hanno citato loro che vogliono che io istituisca. Ma ho capito, hai detto che non prenderesti un frocio nel tuo studio. Perché vorrebbero che io istituisca un servizio dentro al mio studio, in cui stabilire che chi entra nel mio studio può essere chiunque. Io guardi che nella mia attività professionale. Ma tu hai detto che non vorresti un omosessuale nel tuo studio. Questo è un problema, scusate, è un problema mio, cioè voglio dire, se vi state a divertire cercate di mettermi in ulteriore difficoltà, allora voglio dire questo. Carità. Io ribadisco che tutte le cose che ho sempre detto le continuo a ritenere, per me ognuno può fare quello che vuole, però lo faccia a casa sua, questo è quello che ho sempre rilevato. Va bene, questa è la mia posizione. Ho capito, ma se un avvocato si presenta da te, che arriviamo al ridicolo, che si chiede a un tribunale di far istituire una postazione nel mio studio perché possa entrare chiunque di così. Io guardate che ho difeso e difendo tante persone che hanno questa disgrazia dell'omosessualità. Ma come disgrazia? Io le difendo perché come avvocato è giusto, sono cittadini come gli altri. Vabbè, ma certo, ci mancherebbe altro che non difendessi uno perché è omosessuale. Quella sarebbe una discriminazione. Vabbè, ho capito, ma quello è normale, dai. Ragazzi, ma guardate che si parla di queste cose, ma poi si va ben oltre, cioè riserviamoci e garantiamoci sempre la libertà assolutamente. Perché se io non posso dire a Cruciani che mi interpella, certo, qual è la mia posizione rispetto a determinate situazioni, fino a quando non esiste una legge che punisce d'accordo. Tu saresti il primo ad andare in galera se ci fosse la legge sull'omofobia, immediatamente in galera. Io questo qua e su questo il primo saresti tu, guarda, sull'omofobia tu non sei un omofobo, sei un provocatore di chi lo è, che è ancora peggio. Assolutamente. Scusa, non ho capito. Ma guarda che dopodomani, professore, dopodomani c'è il Gay Pride a Roma, te lo dico subito, Vai via. Ma io infatti non ci sono a Roma. Cioè te ne vai apposta, non ho capito. Ma certo, scusate, adesso che quelle manifestazioni possono essere oggetto di apprezzamento positivo da assolutamente parte di qualcuno, sì. A me da chi è come loro, certo. Io le apprezzo. Ma lei le apprezza perché ci specula sopra. Ma quando mai? Ma assolutamente. Ma siete due depravati, siete che non avete altro che pensare a queste cose, per cui io ogni tanto sono andato al Gay Pride, mi sono divertito, ho incontrato un sacco di gente per bene. Possono fare l'etero Pride, lo faccia, perché no? Ma non me ne frega niente, perché la normalità non ha bisogno di essere esibita. Se loro si sentono normali, non si esibiscano. E invece il fatto, siccome lei dice sono anormali, si esibiscono. Si sentono anormali, perché sennò non si esibirebbero. Ma uno fa una manifestazione andando alla ricerca, no, ma manco per niente, perché allora la farebbero anche gli altri. Ma ha visto quel magnifico manifesto con Vendola che guarda il suo compagno con bellissimo. Fantastico. È brutto, scusi. Glielo regalo, se lo metta nel suo cesso che starà benissimo. Ma come? Ma che c'entra il cesso, scusi, professore? Beh, quello è il posto suo. Ma perché il posto suo? Lui che guarda il suo ragazzo. Lo posso dire che quel ritratto, se viene messo in un luogo molto riservato come quello che ho adesso nominato, è possibile dirlo in questo paese? Certo. O in questo paese dobbiamo avere paura anche di parlare? Ma scusi, ecco perché vede la grandezza di Grillo. E Grillo scatena libertà, altro che storie. Scusi professore, quel manifesto lì c'è Vendola. Questo perbenismo, Berlusconi, Renzi, quant'altro, eccetera. Almeno qui c'è qualcuno che finalmente dice le cose come stanno. Manca che dica quello che deve essere fatto. Lo dirà quello che deve essere fatto. Però, scusi, professore, quel manifesto lì in cui c'è Vendola che con la faccia sorridente, che guarda con la maglietta. A me non piace. Non mi piace o è reato anche questo? No, fatemi capire. No, quello non c'è dubbio. Però è un manifesto. È un manifesto che se i bambini lo guardassero. Pensi un po', lei ha i bambini suoi quando ce l'avrà, se ce l'hanno, lo so perché ce l'avrà tanti nel mondo, manco lo sa dove stanno, figuriamoci. Conosciamo bene la sua capacità inseminatrice. Ma quando mai? Per cui le raccomando di mettere quella fotografia davanti al lettino del suo figlio che dovesse avere o che dovrà avere, perché sarà un modo con il quale rifletterà sulla bellezza della vita e quindi poi si uniformerà a quel tipo di immagine. No, ma scusa, non ho capito, ma io voglio capire una cosa. Io la posso mettere tranquillamente a casa mia e spiegare a mia figlia: ci sono due uomini che si amano, si baciano e si vogliono bene. Lo faccio. Vabbè, ma lei non lo fa, ma non è che mica uno schifo. Ma io non lo faccio, se lei guarda quel poster di Vendola, le fa schifo. Io non le condivido queste cose. Ma ho capito, scusi, il manifesto di Vendola, che è anche per Roma, no? Con scritto provincia, regione Lazio. Lei ce lo metterebbe il manifesto tra lei e Parenzo, mi faccia capire. Ma che mica siamo omosessuali noi, però? Ma che ne so, ma no, guardi, su questo c'è molto da chiarire, c'è molto da chiarire. Ma, scusi, quel manifesto lì, quel manifesto lì con Vendola le fa schifo quando lo guarda? No, scusi, non credo. Guardi, c'ho già una citazione diretta davanti al tribunale di Bergamo civile. Per chi? Per cui queste lesbiche, questa sta roba qua, questi avvocati qua che hanno fatto che fanno queste citazioni girando per tutta l'Italia facendo soldi a palate, non da me, perché da me non trovano niente, io sono nulla tenente. Ma come nulla tenente, professore? Io sono nulla tenente. Ma come nulla tenente, come tutto fai? Tutto quello che guadagno me lo mangio giorno per giorno, proprio sprofondando nel lusso e nella lussuria, e quindi buonanotte. Però scusi attimo, professore, c'è un altro elemento. Cioè, Ma quanti autisti hai, Carlo? Come? Quanti autisti hai, Carlo? Come quanti autisti ho? Cioè, con quanti autisti viaggi di solito? Uno? Ce n'hai uno? Uno guida, mica posso guidare in due, scusa. No, ma ce l'hai fisso l'autista? Lo paghi fisso al mese l'autista? Ce lo paghi tu l'autista? O chi lo paga? No, io lo pago. Io non ce l'ho l'autista. Ma non io, ma lo paga l'organizzazione del mio studio, della quale io sono una piccola appendice. Cioè, perché ormai hai dato tutto ai tuoi figli, alle cose, vabbè. Sì. Ma io non ho dato niente a nessuno, perché non c'ho niente, non ho dato niente a nessuno. Scusa, non ho capito. Avrai un reddito mensile. Siccome io creperò, e forse creperò presto, quando sarò crepato, io non lascerò nemmeno... Lascio la mia assenza, che sarà sicuramente fondamentale per loro. Lascia qualcosa all'arcigay, sarebbe stupendo. Ma tu lo sai che un omosessuale, a una coppia di omosessuali che è in banca, uno impiegato in banca, non gli hanno dato la licenza matrimoniale per andare a fare il viaggio di nozze, non gliel'hanno data? Tu lo sai. Non era un viaggio di nozze quello. Ma come no? È un matrimonio, uno si sposa. Mo mettiamo pure il matrimonio. Vogliamo parlare pure del matrimonio. Ma perché? No, parliamo di altre cose e sono in posizione negativa. Posso dire, guardate che linguaggio che utilizzo senza poter incorrere nel no, ma lo sappiamo. Nessuno, e quindi voglio dire, come posso essere favorevole a cose di questo genere? Sono uno schifo, secondo me. Ma non è che sono. Un attimo, professore, in collegamento con noi per la seconda volta consecutiva, grande ritorno, Marika Fruscio. Buonasera, Marika. Buonasera a tutti voi, buonasera ai nostri. Ma dove? Aspetta, Marika, ma che c'hai? Il viva voce? Togliti la viva voce, c'è qualcosa, no? No, è viva voce, auricolare, quello che è. Cara Marika, io ho controllato bene, lì siamo sulla settima, però, No, ma che state sbagliando? Perpetuate lo sbaglio. No, sei sulla settima, hai la settima. Allora, la prossima volta vi mando una foto con l'etichetta reggiseno. Quando vieni qui in studio, una volta facciamo la misurazione. Va bene. Io voglio dire una cosa: come fai a essere tifosa del Napoli e super leghista Salvini tutta la vita? Spiegami questa cosa qua. Fede calcistica è una cosa, e invece il credo politico è un altro. Soprattutto di Salvini sposo due diciamo... Ma tu te lo sposeresti Salvini? No, quello no. Perché no? Salvini però credo che sia felicemente sposato. Vabbè, ti piace come uomo, come ben ragazzo. Il carisma di Salvini è, inopinabile, quindi è un grande uomo e un grande demagogo, quindi insomma demagogo, sì, arrivare... demagogo. Sì. Senti, ma tu sei a favore dei matrimoni gay? Io a favore dei matrimoni gay, sì. Facciano quello che vogliono. Vabbè, un bel matrimonio. Ma senti, io sono per le cose lineari e normali, cioè l'uomo e la donna come base di un nucleo familiare. Per cui, insomma, poi... Professore, è d'accordo con lei? Professore. Siamo, ma perché la naturalità è questa e la maggioranza, la stragrande maggioranza la pensa in questo modo. Non ci prendiamo in giro, insomma. Non ci prendiamo in giro. Finire a fare una trasmissione... filo etero è vergognoso per la zanzara. Ma perché la zanzara? Ma noi siamo filo. Posso essere filo gay o no? Professore? Aspetta, non bisogna essere né filo gay e né filo etero. Bisogna rispettare tutti a condizione che si comporti in modo da essere rispettati. Vabbè, perché il gay pride non è una cosa rispettabile? Vabbè, secondo lei è rispettabile, secondo me no. E perché? Che c'hanno? Che fanno a gay pride? Che succede? Che fanno? Non ho visto mai quello che fanno. Che fanno? Mettono l'uccello di fuori? Che fanno a gay pride? Ma a lei piace tutto questo, piace. Ci gode. Ci gode. Che gode. Perché, forse è una necessità che anche lei sente e che non ha la possibilità di estrinsecare, perché appunto il suo ruolo, la sua posizione, tango e quant'altro, ma che non, tango, le consentono, ma che non le consentono di prendere questo tipo. Ma che cosa? Nel suo intimo va alla ricerca della possibilità di farlo e quindi proietta se stesso. Cioè, nel mio intimo vorrei farmelo mettere in quel posto. Ma questi sono fatti suoi, se le piace faccia pure. Beh, ma insomma, che male c'è se due persone, per esempio, praticano la sodomia? Cioè praticano... Ah, vabbè, a lei pare normale, a me non pare normale. Vabbè, no, Davide, va salutiamo bene. Il professore. Ciao, professore, a presto. Buonanotte, ciao. Marica, io non me la racconti bene, però, tifosa del Napoli e pro Lega, non me la racconti bene. Cioè, ma il credo politico non può. Ma quando è che vieni qui? Fissiamo un giorno, quando è che vieni qui? Quando volete. Vabbè, un abbraccio. No, però volevo. No, aspetta, però prima di interrompere. Quando vieni, chiariamo tutto. Dai, Gianfranco da Modena. Gianfranco. Sì. Vai. Oh, mi sono ascoltato delle belle cose. Dimmi. Allora, io volevo parlare di Staripa di Meana con sto Papa. Perché che ha fatto? Papa è Papa. La Ripa di Meana, io non so neanche chi sia. Ma ho capito, ma uno non può criticare il Papa per la frase sugli zingari? Non può criticare. Vedrà che adesso il Papa vabbè. Si discolpa a modo suo. Ma quando mai? Vabbè. Gianfranco, parlare. Vi devo lasciare. Ciao. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E che cos'è? E che è un bell'ambiente? Ambiente di maiali. Radio 24. La passione si sente.